Tempo di Sport con Carlo Genta. Buonasera e buona domenica a tutti. Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi in regia, come ogni domenica insieme fino alle 19, anche se oggi insomma il campionato segue questa programmazione, diciamo così, inconsueta, quindi aspetteremo insieme di veder calare il sipario su questa stagione che ormai da dire non ha praticamente più nulla, tanto che non ricordo a memoria, ma forse non c'è mai stato un finale di stagione con così tanto mercato dentro e con così tante notizie ufficiali già snocciolate dalla settimana, dalle panchine che saltano. Ultima ieri, insomma, era saltata da tempo, però l'ufficializzazione ieri del Neri: non allenerò più la Juventus, c'è poi la retromarcia di Mazzarri, insomma ci sono tanti temi di cui possiamo parlare insieme per tenerci compagnia, aspettando appunto questo sipario. 800 24 00 24, il numero verde. Ma partiamo dalla cronaca. C'è una stagione di Formula 1 che sembra una montagna inespugnabile per la Ferrari. Anche oggi in Spagna c'erano ambizioni di podio, Alonso fresco di rinnovo. A proposito, cosa ne pensate di questa estensione contrattuale di Alonso fino al 2016, inchiostrati in settimana, con un corollario di buoni propositi? Alonso che aveva detto è il momento però di cominciare a vincere. Evidentemente le Red Bull e nemmeno Hamilton sono d'accordo, tanto che oggi Alonso è stato bravissimo in partenza, ma poi è stato risucchiato dai limiti attuali della Ferrari. Vince al solito Vettel davanti a Hamilton, Button, quarto Webber e solo quinto Alonso, mentre sesto arriva Michael Schumacher, settimo Rosberg, ottavo Heidfeld, poi Perez e Kobayashi. E tra poco ne parleremo. Intanto, a proposito di montagne che invece verranno espugnate, e tutte quante oggi a quanto pare, perché non ci sono sconti di percorso, andiamo a fare un salto, un primo flash al Giro d'Italia, terza tappa del trittico delle grandi vette dolomitiche. Oggi c'è il Gardeccia, sul quale piove a dirotto in questo momento, vedo dalle immagini televisive. Pier Augusto Stagi, buonasera. Sì, qui le condizioni sono terribili, sul Gardeccia piove a dirotto, siamo a 31 km dal traguardo, un uomo solo al comando che sta scalando la Marmolada, e Stefano Garzelli che ha ha 8 minuti e mezzo di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Da segnalare in questa tappa un bellissimo attacco di Vincenzo Nibali lungo la discesa del Passo del Giau. Aveva guadagnato 25-30 secondi su Alberto Contador, la sua sfortuna è stata quella di poi di arrivare nel piano, nel tratto di piano, di non trovare nessun corridore davanti a sé dove poter così fare gruppetto e cercare di guadagnare ulteriormente. In realtà è rimasto isolato, alle sue spalle invece gli spagnoli si sono uniti, Contador ha trovato molti amici, adesso c'è anche un Alberto Contador che attacca sulla Marmolada. E praticamente l'hanno riportato su Vincenzo Nibali, che a quel punto ha anche mollato e ha rispettato e ha aspettato il gruppo Maglia Rosa. In questo momento sta attaccando Contador sulla Marmolada e Nibali sta cercando di rientrare. A proposito, Pier Augusto, poi ne parliamo in commento più tardi, però volevo conoscere così subito il tuo pensiero su questo, sull'atteggiamento di Contador di ieri, su questo giocare al gatto col topo con Nibali, che si è un po' indispettito. E qualcuno ha anche scritto: beh, però uno straordinario campione che potrebbe entrare nella leggenda, come magari di fatto è già Contador, avrebbe dovuto provare a vincere quella tappa per dare un sigillo a questo suo Giro d'Italia che vincerà in carrozza. Tu come valuti l'atteggiamento di Contador? Guarda, Contador non è un damerino, questo lo sapevamo, non lo è mai stato, d'altra parte l'abbiamo visto anche l'anno scorso, il Tour de France, dove non era brillantissimo, ma nel momento in cui Andy Schleck ha avuto un guasto meccanico, gli è caduta la catena, lui l'ha attaccato, sì. Lui è spietato, è molto forte e anche molto cinico. D'altra parte lui dice: io ho rispettato e ho onorato Nibali, se io l'avessi sottovalutato non l'avrei attaccato. Quindi è anche, diciamo, quasi anche un Mourinho della bicicletta, perché gioca anche a livello psicologico con grande intelligenza. Lui dice: io non lo sottovaluto Nibali e lo dimostro ogni giorno, non mandandolo via e non concedendogli nulla, perché io lo temo. Sta pedalando molto bene sulla Marmolada, eh? Dicevi sta all'attacco, andando sta andando molto bene, sta andando molto bene. Saltella sui pedali. Sì, ho l'impressione anche che... Anche se non sta guadagnando più di tanto. Sì, però... Alle sue spalle col Parmanotti... Vedo l'andatura buona alle spalle di Contador. Oggi potrebbe però chiudere il barattolo, ormai il barattolo forse è chiuso. Già l'Etna l'aveva chiuso il barattolo. Senti, ci sentiamo più tardi naturalmente, per tra una decina di minuti facciamo un altro flash e vediamo come evolve questo attacco di Contador sulla Marmolada, mentre c'è Garzelli, e sono molto contento di questo, in cavalcata solitaria verso il traguardo, oltre 8 minuti di vantaggio per il vecchio Stefano Garzelli, che potrebbe vivere oggi la sua ennesima, forse ultima giornata di grande gloria al Giro d'Italia. Ora vorrei tornare invece a parlare, anzi vorrei cominciare a parlare in maniera approfondita della corsa che abbiamo visto oggi in Spagna, di quella partenza carica di illusioni, poi si è dimostrato, no? di Alonso, che è stato bravissimo al via a scattare davanti a tutti, poi come detto è stato risucchiato dalla corsa e dai limiti della Ferrari. Come detto vince Vettel davanti a Hamilton e Button, e la classifica del mondiale onestamente non lascia a questo punto grandi spiragli ai sogni e alle ambizioni della Ferrari. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Un lampo, allora, un lampo rosso all'inizio della sì. Corsa, tanto da scarica di adrenalina per tutti, però era una rondine che, come sai, non fa primavera neanche in Formula 1. Beh, diciamo, io dividerei la corsa per come l'ho vista io personalmente, che ho evidentemente delle idee un po' diverse da quelle della federazione, 30 giri perfetti, cioè i primi 20 di Alonso e gli ultimi 10. Quella era una corsa seria, poi tutto il resto era lo show delle fermate ai box, perché abbiamo rivisto che nonostante tutto con le fermate ai box non è che con queste tante fermate, con queste gomme che si consumano subito, abbiamo visto che poi la classifica finale mantiene la scala dei valori, perché Vettel è il più forte, perché Hamilton è il più combattivo, e perché Button è il più tecnico, diciamo, il più calcolatore, il più diciamo pilota morbido, ma che poi alla fine riesce sempre ad arrivare, tenendo presente comunque che lui si è dovuto fermare solo 3 volte per cambiare le gomme contro le 4 e i 2 che lo precedono. Poi c'è Webber, che oggi non è stato molto in giornata e si aspettava, invece, avendo vinto l'anno scorso, avendo fatto la pole position, che avrebbe finalmente cercato di mettere dietro Vettel, non gli è riuscito. E poi c'è questo Alonso eccezionale, che merita questo contratto fino al 2016, sicuro, perché forse è l'unico che può tenere un po' in ordine il discorso Ferrari, dove c'è moltissimo da fare, perché perdere 3-4 secondi con le gomme dure rispetto agli altri evidentemente è un modo che non è proponibile per essere competitivi, sì. Quindi c'è sicuramente molto, molto da lavorare sulla Ferrari, però rimane il fatto che quest'anno questa teoria di aver cambiato le gomme secondo la tesi di facciamo che si consuma di più così si cambia più spesso e c'è più spettacolo, mi pare che tutto sommato scontenti. Sì, se a questo sì, aggiungiamo, sì. Scusami, se aggiungiamo che c'è questa grossa polemica adesso sul nuovo regolamento per il 2013 col 4 cilindri 1.6 turbo, che c'è la polemica in corso sui gas di scarico utilizzati per aumentare l'aderenza, per cui in linea teorica noi adesso siamo alla corsa appena finita, ma teoricamente ci potrebbe ancora essere il rischio che qualcuno dei team che non ha questo sistema di scarico, mi pare sono 8-9 perché ce l'hanno, potrebbe fare reclamo e quindi vincerebbe forse la Williams, forse India, non lo so, insomma, per dire, non succederà. Sì, sì. Ma dimostra la confusione che c'è in questo momento della Formula 1, certo. Senza parlare delle battaglie sotterranee per vendere o comprare la società di Eccleston, eccetera, eccetera. Però, tirando le somme, Ferrari, eccellente Alonso, che ha giocato di molta abilità perché sapeva che i due della Red Bull avrebbero battagliato tra di loro, è riuscito a cogliere il passaggio giusto e quando è stato davanti, finché ha potuto, ha tenuto nonostante delle vetture sicuramente più competitive. Ecco. Mario, io ti chiederei di rimanere in linea così chiacchieriamo ancora un po' con calma di questa corsa e del futuro di questa stagione e magari anche di quello che verrà, tra incertezze regolamentari, tentativi di acquisizione. E un unico dato certo, che mi pare l'unico raggio di sole fin qui nella stagione a Ferrari, cioè il prolungamento del contratto di Alonso fino al 2016. Ci fermiamo per il traffico, ma poi torniamo. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate. Soffri di alitosi. Potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila e curala con una tecnica non invasiva, biologicamente guidata, grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita a Milano, Torino, Bologna, Firenze o Roma all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo. Salva i tuoi denti. 800 090 106. Axerta Investigazioni indaga, documenta, accerta. Vi presenta Strade in diretta. Ben trovati, molti veicoli in viaggio lungo le coste liguri per i primi rientri del fine settimana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia si rallenta verso Genova tra Spotorno e Savona e poi ci sono code all'altezza dell'innesto con la A26 dei trafori. Code in entrata a Genova anche provenendo dalla A12 Genova-Livorno tra Rapallo e Nervi. Aumenta il traffico anche sulle altre percorrenze. Sull'Autosole si rallenta tra Barberino e Roncobilaccio verso Bologna, mentre sulla 11 Firenze Mare in direzione di Pisa i rallentamenti sono per un incidente risolto tra Prato Ovest e Pistoia. Infine, verso la capitale, primi rallentamenti per traffico sulla diramazione Roma Nord dell'Autosole tra la barriera di Roma Nord e Sette Bagni. Ed è tutto, a più tardi. Promo 24. Molti comprano energia, ma il futuro è produrla. I proprietari di abitazioni mono o bifamiliari che si affidano a EDF Ener Solare possono produrre energia in modo semplice, sicuro e vantaggioso, con una soluzione chiavi in mano. La garanzia di assistenza costante in tutte le fasi del progetto e per tutta la vita dell'impianto, anche a 20 anni dall'installazione, è assicurata dalla solidità del marchio EDF Ener Solare. Grazie alla promozione Prenditi cura dell'ambiente, EDF Ener Solare si prenderà cura di te, chi acquista un impianto fotovoltaico entro il 30 giugno riceverà in regalo un set da giardino in tech o un weekend benessere per due persone. Informazioni su www.edf-enr-solare.com oppure all'800 90 3705. A tempo di sport. La cavalcata solitaria di Stefano Garzelli, l'attacco, il nuovo attacco di Contador che danza sulla marmolada, Nibali che fatica a tenere il passo dello spagnolo, così si sta scrivendo questa tappa dolomitica del Giro. Garzelli a 7:45 di vantaggio, 7 minuti e 45 secondi, a meno di 30 km dalla conclusione, ma ci sono ancora tanti chilometri di salita da percorrere. Mario Poltronieri, guarda, leggo la classifica del mondiale di Formula 1 e vedo Vettel 118, Hamilton 77, Webber 67, Fernando Alonso è quinto a 51 punti e mi viene subito un parallelo tra Contador e Vettel, scherza addirittura con gli avversari, anche Webber gli ha detto vabbè vai avanti il venerdì e il sabato, fai tu che poi arrivo. E infatti, indiscutibilmente si era già rivelato all'inizio delle sue partecipazioni al mondiale come un pilota fortissimo. Adesso è ormai certo che è un pilota di valore assoluto, anche se non è spettacolare tutto sommato, ma è congeniale al tipo di corsa che viviamo adesso. Quindi è un martellatore, sa di avere la vettura con le maggiori prestazioni, è abbastanza duro come Hamilton, come Alonso, nel non lasciarsi affiancare e superare. Quindi diciamo che ha il campionato praticamente aperto, sì. Però è un campionato insomma, con una formula che, lasciamelo dire, è morta e non se n'è accorta. non è possibile fare delle gare dove si ha ormai i distacchi per millesimi di secondo, sì. Manca di farlo al nanosecondo, sì. E poi abbiamo definitivamente chiuso. Quindi il fatto che nel 2013 cambi il regolamento è solo un vantaggio, perché così ormai si spendono delle cifre enormi. Giustamente Cesare Fiorio ricordava poco fa, in compenso poi non si può avere un treno di gomme in più. E per esempio, certo, la Ferrari soffre di questo problema. A proposito, Mario, c'è Alonso che ha parlato delle gomme. Sentiamo alcune battute di Alonso dopo la corsa che abbiamo registrato ai microfoni di Sky. Parla innanzitutto di quella partenza fulminante. Sentiamolo. Beh, penso che partenza è stato l'unico momento buono. Sicuramente ci mancava una bella partenza. Abbiamo lavorato molto, oggi abbiamo visto che la macchina è partita benissimo, poi qui c'è un lungo rettilineo grazie alla scia, puoi sorpassare e poi ci abbiamo trovato forse in una posizione che non era la nostra, essere leader della gara, e quindi con le macchine così veloci dietro prima o poi ci hanno cominciato a sorpassare. Ma Alonso ha parlato anche delle gomme, altro tema di strettissima attualità, sentiamo. No, penso le gomme dure per la partenza è molto difficile per partire bene, quindi le gomme dure, il problema che abbiamo avuto questo weekend è che non hanno funzionato mai per noi, né il venerdì, né il sabato, né oggi domenica. Purtroppo le morbide fanno solamente 11-12 giri, quindi ti trovi per fare 30-35 giri con le dure e quello ha pagato troppo per la nostra gara, abbiamo perso un po' troppo tempo. Io intanto ho un messaggio che scrive Daniele, 349-238-6666. Diciamo la verità, la Ferrari quest'anno deve combattere contro Ecclestone, che ogni anno fa cambiare i regolamenti e chissà come mai se ne avvantaggia sempre la Red Bull, e contro la Pirelli, che per motivi tutti italiani la penalizza. Il risultato è un campionato finito dopo 5 gare con tanti pit stop che fanno solo confusione. Ridateci una Formula 1 avvincente e non questa roba, scrive Daniele. Mario? Credo che più o meno siamo tutti d'accordo, forse i giovanissimi che cominciano a vedere la Formula 1 adesso e non sanno cos'era in precedenza, magari si divertono così, perché sembra un videogame tutto sommato questo tipo di corsa, però è chiaro, adesso ti dico, c'è questo problema regolamentare su come modificare ovviamente la formula nel 2013, perché Montezemolo e la Ferrari sono contrarissimi all'ipotesi di adottare un motore a soli 4 cilindri quando la loro produzione è di 8 o di 12, e non è che le esperienze che si fanno questi motori diano grandissimi vantaggi al prodotto di serie, perché questi motori devono durare relativamente poco e là invece bisogna una macchina che duri di più. Poi non possiamo mai confrontare una macchina di serie con una macchina da corsa dove c'è un'aerodinamica che, se la ribaltassimo, vola come un aeroplano. Certo. Quindi diciamo che la Formula 1 può dare degli ottimi tecnici, può dare qualche indicazione interessante sullo sviluppo di alcuni particolari che vengono dalla serie, ma dovrebbe, secondo l'interesse di Ecclestone, non è quello che sia solo spettacolo, sta cercando quella strada. Invece la federazione, riprendendo tutto sommato la vecchia tesi del vituperato Mosley, e dice: facciamo una formula che costi meno. E allora si pensa che appunto questo 4 cilindri 1.6 turbo, magari anche ecologico nel senso di ibrido, possa essere una scelta. Certamente si tratta di vedere, la Renault sta già studiando questo motore, però la Ferrari si oppone moltissimo, certo, nonostante che Prost abbia già detto, siccome è stato approvato questo regolamento dalla federazione, dal Consiglio Mondiale della Federazione, non si torna indietro. Però è chiaro che è una situazione che avvelena un po', sì, i rapporti tra la federazione e i team. Non so come andrà a finire questa battaglia, perché abbiamo ancora un'altra stagione, adesso dobbiamo scoprirlo. Vivere questa, certo, come dici tu è un discorso che sembra ormai chiuso, ma però la gara di Monte Carlo sicuramente su un percorso è talmente strana e sui generis che magari qualche orgasmo ce lo dà, insomma, qualche sussulto di novità, dai, aspettiamo noi, Monte Carlo, noi ci proviamo intanto ne parliamo. Grazie Mario, un abbraccio. Grazie Mario Poltronieri. Io voglio tornare a fare un flash sul Giro d'Italia, dove, vi dico la verità, sto facendo un tifo sfrenato per Garzelli, che pochi istanti fa ha pioppato una gomitata al solito al solito, mi viene da dire minchione ma non volevo dirlo, che si avvicina e lo disturba mentre piove, fa una fatica terrificante, e questo Valea gli urla nelle orecchie, Garzelli gli ha dato una gomitata, ma vai via e fammi pedalare, fammi provare a vincere sta tappa, mentre Contador è sempre all'attacco e Nibali non ha una bellissima faccia. Pieragusto Stagi. Sì, un uomo solo al comando ed è Stefano Garzelli a 7 minuti e 02 secondi di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Al momento la corsa è appena scolinato, Garzelli il primo sulla Marmolada e ha 43 secondi di vantaggio su Michel Nieve, 2.20 su Jean Bakkenen e 2.48 su Emanuele Sella. Ripetiamo, il gruppo Contador è a 7 minuti in questo momento, Garzelli sta arrivando proprio ora in cima al Gran Premio della Marmolada, 27 chilometri dal traguardo, sta facendo veramente una grandissima azione. In difficoltà, come hai detto tu, Vincenzo Nibali, Contador ha attaccato all'inizio della Marmolada, ha portato via un gruppetto dei migliori, diciamo, a pagare è stato Nibali, che adesso è un po' in difficoltà e sta guadagnando qualcosa in falso piano in discesa. Perfetto, ci sentiamo subito dopo il GR e, insomma, 27 km e mezzo sono ancora moltissimi, però vivremo insieme i battiti, gli ultimi battiti molto appassionanti di questa tappa del Giro d'Italia. Intanto io vi aspetto anche con i vostri commenti, poi abbiamo un paio d'ore per parlare ampiamente di calcio, vivremo insieme il primo tempo delle partite che cominciano, quelle che contano. Partite di oggi mi sembrano quelle ideali per portare i bambini allo stadio, per il debutto allo stadio, cioè partite senza grandi amichevoli ufficiali, insomma, mettiamola così. Poi stasera qualcosa di un po' più peppato c'è, ma pochissima roba, perché io sfido chiunque a pensare che non ritrovare questa sera tardi l'Udinese in Champions League come merita ampiamente. La Lazio in Europa League, la Juventus fuori da tutto. A proposito di Juventus, oggi ed è grosso modo una notizia di giornata, fin qui aspettando la cronaca, oggi Andrea Agnelli è tornato a cavalcare il solito cavallo di battaglia utilizzando Twitter, e ha scritto Andrea Agnelli: la federazione non ci ha ancora risposto sul nostro benedetto esposto, se la FIGC scrive ci mette più di un anno per rispondere al nostro esposto, allora forse non hanno la coscienza troppo pulita. Questo ha scritto oggi Agnelli su Twitter. Ci fermiamo un attimo per il GR. A tempo di sport. Torniamo insieme, 800 24 00 24, aspettando l'ultima di Serie A, che insomma diventa solo una, principalmente una vetrina per discorsi di mercato a questo punto, mi pare. Ci sono queste dichiarazioni di Agnelli di cui vi dicevo prima e di cui tra poco vorrei parlare anche con voi, se ne avete voglia. 800 24 00 24, nulla di inedito, perché nulla di inedito, perché si tratta del solito cavallo di battaglia, del solito richiamo alle armi del popolo juventino nei periodi di bassa come questo. Intanto, su quel fantastico santuario di pietra, su quel magnifico monumento di pietra che è la Marmolada, vi tengo aggiornati sulla situazione di questa tappa. Garzelli sempre a condurre in fuga solitaria in cima alla Fedaia, aveva 40 secondi sullo spagnolo Nieve. Intanto c'è Vincenzo Nibali che ha superato la crisetta patita sulle pendici ossessive della Marmolada e ha scollinato a 57 secondi da Contador, ma ora sta recuperando sullo spagnolo in discesa. Ora si scende e poi si sale sull'ultima rampicata di giornata fino a Gardeccia, 17 km e 6 alla conclusione. Fabio Monti, nostro amico e storico inviato del Corriere della Sera, ciao Fabio. Buongiorno a tutti. Senti, commentiamo subito queste notizie via Twitter, come è ormai abitudine di tutti i giovani VIP del mondo dello sport, dirigenti o giocatori o allenatori eccetera. Agnelli che dice che torna a cavalcare la storia dell'esposto, no? Dicendo: se non ci hanno ancora risposto dopo un anno, ma alla FIP non hanno la coscienza troppo pulita, alla FIGC, non alla FIP, che è un'altra cosa. Mi sembra il solito refrain, no? Di momenti di difficoltà. Sì, no, non c'è dubbio che ogni tanto la Juve torna ad occuparsi della vicenda e a ribadire la volontà di riavere indietro quello scudetto, impresa che mi sembra abbastanza difficile. Sicuramente non si può dire che la giustizia sportiva abbia la velocità che aveva un tempo, però è anche vero che ci sono continui ricorsi ormai alla magistratura ordinaria, ci sono continui gradi di giudizio, TAR, TAS, e quindi è tutto un po' più difficile rispetto a una volta. Ed è anche vero che l'acquisizione di alcune telefonate, quelle di cui parla anche la dirigenza della Juventus, sale soltanto al 22 di aprile, il giorno in cui sono state messe a disposizione della magistratura sportiva da parte della Procura di Napoli. Sì. E quindi, vista così, è passato soltanto un mese, che certo, non è poco, ma non è neanche tanto. Però Fabio, al di là della sostanza, nella forma, questo nuovo appello a questa vicenda, insomma, mi pare che in ogni momento di grave difficoltà, e la Juventus ne ha attraversati tanti, troppi negli ultimi anni, si torni un po' a coalizzare il popolo bianconero su questa storia, in modo da lasciare lì sullo sfondo vicende di campo molto confuse. Anche ieri la dire del Neri probabilmente non se l'aspettava nessuno, magari nemmeno la dirigenza bianconera, che del Neri ieri uscisse a dire: mi hanno detto che mi hanno licenziato, me l'hanno detto mercoledì, non sono più l'allenatore della Juventus. No, io penso che in generale, se la Juventus si concentrasse di più sul presente e meno sul passato, anche se il passato per loro è stato molto doloroso, forse otterrebbe risultati migliori che già si stava avviando ad ottenere durante la gestione Ranieri. Poi c'è stata l'insana decisione di esonerarlo a due giornate dalla fine, e quel suo movimento successivo con la scelta di Ferrara, poi abbandonato sostanzialmente a se stesso. Quindi mi pare che se si facessero delle cose un po' meglio, tante cose potrebbero essere superate. Che poi Calciopoli sia una ferita aperta dal parte del popolo juventino è fuori discussione, ma anche in quel caso ci si poteva comportare diversamente, visto che la forza della Juventus era assolutamente fuori discussione. Forse non c'era bisogno di telefonare tanto in giro anche con le sim straniere. Sì, però qui rischiamo di aprire storie molto vecchie. Fabio, invece, il presente, sono d'accordissimo con te sul fatto che nonostante quel dolore che rimane lì, quella ferita che ogni tanto la toccano e dicono: cavolo, fa ancora male, perché è così e farà sempre male, io credo. Però sarebbe il caso di ragionare sul presente. E il presente, dice Antonio Conte, il presente e il futuro prossimo. Come valuti questa scelta? Non ricorda un po' quella di Ferrara? Ma insomma, Conte mi pare che abbia un po' più di esperienza. Secondo me Conte può andare bene a condizioni che tutti siano d'accordo e abbiano chiaro che cosa vogliono dalla Juventus nella prossima stagione. Quando è arrivato nel 1976, Trapattoni aveva 37 anni, aveva allenato un anno il Milan. No. Però c'era una chiarezza di idee, c'era una forza di società. Esatto. C'era Boniperti. Siccome Andrea Agnelli, per esperienze personali, è uno che ci ha fatto le ossa vicino a gente che sapeva di calcio, io credo che e Marotta sa sicuramente di calcio, nonostante quest'anno, che è stato un anno complicato per tanti motivi, io credo che se la società gli sta vicino, Conte possa andare bene. Sì. Ma io ho delle perplessità, ma non sul valore assoluto di Conte come allenatore, quello possiamo discuterne, ma sul momento storico. Cioè, mi sembra che in questo particolare momento storico servisse un personaggio un po' diverso, uno in grado di avere le spalle un po' più larghe, di avere un po' più di carisma, di appeal anche nei confronti dell'opinione pubblica. Insomma, mi sembra servisse una figura un po' diversa, però di questo avremo tanto tempo per parlare. Quello che si vuole, perché se l'anno prossimo alla quinta giornata, siccome non ha vinto 5 partite, magari ne ha vinte 4 e pareggiata una, si apre già un processo perché magari il Milan o l'Inter sono avanti di 2 punti, allora diventa complicato con tutti. Sicuro. Ci vuole un po' di pazienza. Io non credo che la Juventus possa essere ricostruita in un anno, però se il progetto è chiaro, parte magari dalla difesa, detto in maniera un po' schematica, si comincia a cercare una squadra che subisca un po' meno gol, si comincia a lavorare magari per arrivare nel giro di 2-3 anni allo scudetto, allora Conte può andare bene. Se invece gli si chiede tutto e subito, credo che non vada bene nessuno, forse neanche Guardiola. No, certo, il problema vero è quello dell'impazienza. Il tempo è finito, lì hanno bisogno di risultati, perché c'è una piazza che è fin troppo rumorosa e pesante, e presente anche nelle decisioni societarie, ho l'impressione. Ti chiedo ancora questo, Fabio: tu ti ricordi a memoria una giornata, un'ultima di campionato, in cui il mercato fosse già così presente? Perché è stata la settimana dell'addio di Pirlo, di un sacco di allenatori, ultimo del Neri, che hanno detto ufficialmente: non starò più qui la prossima stagione. Tu ti ricordi una giornata, delle parole anche di Leonardo ieri: Sanchez abbiamo, è un giocatore che ci interessa, come dire, l'abbiamo già preso, ma questo lo sapevamo, grosso modo. No, io credo che questa sia un'osservazione legata ad un altro tipo di osservazione, che un campionato che prevede dalle 6 alle 8 amichevoli all'ultima giornata non ha senso di esistere, insomma. È evidente che 20 squadre non significano nulla, il campionato ideale sarebbe a 16 squadre, siccome 16 fosse troppo breve per tanti motivi, allora a 18, ma non più di 18. Un campionato a 20 squadre è veramente un controsenso, insomma. Sì, sì, verissimo. Amichevoli ufficiali. Poi è chiaro che poi dopo si parla di mercato, per forza è tutto fatto, insomma. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a voi. Abbraccio. A voi. Grazie a Fabio Monti. 15 chilometri alla conclusione della tappa e tra poco torniamo a collegarci con il Giro d'Italia. Mentre Garzelli è sempre da solo al comando, ovviamente non è un uomo di classifica, e quindi Contador ha lasciato fare. Mi pare anche che Nibali sia rientrato sul gruppo della maglia rosa, però c'è ancora un'ultima salita che scriverà la storia di questa tappa. Comincio con grande piacere a chiacchierare con gli ascoltatori. 800 24 00 24 è il numero verde. Comincerò a parlare con Claudio e Moreno dopo il traffico. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo. Vi presenta Strade in diretta. Traffico momentaneamente bloccato sulla 15 della Cisa in direzione di Parma tra Fornovo e Parma Ovest per un veicolo in fiamme. Altrove la circolazione è in aumento per i rientri del fine settimana. In direzione di Genova ci sono code sulla 12 Genova-Livorno tra Chiavari e Nervi, sulla 10 Genova-Ventimiglia code a tratti tra Spotorno e Savona e tra Arenzano e la 26 dei Trafori. Molti veicoli in viaggio anche lungo la 14 Adriatica, dove si rallenta nella zona di Rimini, e ci sono code tra Faenza ed Imola verso Bologna. Sull'autosole si rallenta tra Calenzano e Roncobilaccio verso Bologna, rallentamenti anche verso la capitale sulla diramazione Roma Nord. E a chi è in viaggio sulle strade laziali raccomandiamo prudenza per le cattive condizioni meteo. È tutto, a più tardi. A tempo di sport. Dunque torniamo insieme, ho messaggi, vari messaggi, 349-238-6666, come questo che scrive Paolo. Lei dice che alla Juve servirebbe un allenatore dotato di carisma, dando per scontato che Conte ne sia sprovvisto. In base a cosa? Ma ne sia sprovvisto? Certamente Antonio Conte non è un grande comunicatore, certamente è un allenatore, nonostante l'esperienza che ha fatto e sta facendo straordinaria quest'anno con il Siena, però è un allenatore grosso modo alle prime armi. Piace molto alla pancia del popolo juventino. Io continuo a pensare che in questo particolare momento storico, non discuto il valore assoluto di Conte come allenatore, alla Juventus servisse un personaggio dotato di maggiore carisma anche mediatico. Non lo so, il nome fatelo voi se ne avete voglia, Capello, piuttosto che Lippi, insomma un personaggio di questo tipo, chiaro non Lippi allenatore, però ad esempio l'idea, che è del tutto frutto di fantasia, che non si verificherà mai, però un Conte in panchina, Lippi dietro una scrivania, da una tribuna, a fare da parafulmine, a parargli le spalle, ecco, potrebbe essere una soluzione un po' più interessante, un po' più intrigante, un po' più adatta al momento juventino. Queste sono le mie idee, però. Claudio, voglio sentire le vostre. Claudio D'Ancona, buonasera. Sì, buon pomeriggio, dottor Genta. Sarò brevissimo. Innanzitutto sono d'accordo con lei su Conte. Non lo vedo anch'io, nemmeno io, in grado di gestire attualmente la Juventus. Ma neanche l'ambiente Juventus, attenzione. Assolutamente, qui c'era bisogno di un Capello, ecco, questo era questa è la persona. Ma sì, tanto per buttare lì un nome e individuare una figura, insomma, un profilo di allenatore che poteva andare bene. Esatto, poi vorrei concludere, cioè, sull'affermazione di Andrea Agnelli, no? Cioè, non vedo cosa ci sia di male, cioè, d'altronde è un anno che ha fatto questa richiesta. Questo è legittimo battere il tempo. Nel 2006 hanno deciso tutto in due settimane, qui adesso sono venute fuori alcune novità, almeno a sentire, a leggere le intercettazioni. Secondo me Andrea Agnelli fa benissimo. A prescindere dal fatto, come, ecco, non sono d'accordo con lei sul periodo che ha scelto, perché in periodo di bassa della Juventus. Secondo me per lo juventino, anche se avesse vinto la Champions League, questo discorso è sempre attuale. No, ma che questo discorso, Claudio, intendiamoci, questo discorso sia sempre attuale, non c'è dubbio. Ho l'impressione che nei momenti di maggiore difficoltà anche nei rapporti con la piazza si torni a cavalcare un cavallo di battaglia su cui salgono tutti, su cui sale l'intero popolo juventino. Magari è una coincidenza, magari è una legittima strategia precisa, questo non lo so, è una mia sensazione, insomma, se lei ci fa caso, ogni volta che c'è che ci sono momenti di bassa marea, e ce ne sono stati tanti, questa storia, questo battere il tempo legittimamente salta fuori, quindi sarà una coincidenza o sarà una mia balzana fissazione, però noto questa coincidenza temporale, tutto qui. Su quanto lei dice, insomma, è ampiamente condivisibile, no? I tempi sono slittati in maniera, io credo, insopportabile per i tifosi juventini. Agnelli batte il tempo, giustamente. Moreno, provincia di Milano, buonasera. Dottor Genta, buonasera. Dica. Sono d'accordissimo anch'io sul discorso di Conte, che ci vorrebbe un Lippi, guarda, sono perfettamente d'accordo con lei. Ma sì, ma la società Juventus non è pronta adesso a lanciare un... È quello, cioè io ho paura che rimanga con le spalle al vento, come è successo ad esempio a Ferrara. Si dice, ma Conte ha più esperienza come allenatore. Sì, ha più esperienza come allenatore. Sappiamo come abbia allenato il Siena, l'Arezzo, il Bari, l'Atalanta, brevissima primavera, brevissima stagione, no? Poi non è andato d'accordo con l'ambiente, mettiamola così, e anche quella storia è finita presto. Quest'anno il Siena sta facendo davvero molto bene, però non possiamo dire sia un allenatore top europeo, questo no, almeno non ancora. Certamente è un allenatore, certamente è uno che ha carattere, non mi pare un personaggio estremamente carismatico, e torno a dirlo, non mi pare, e questo sarà un dettaglio, però secondo me in questo momento della Juventus c'era bisogno anche di qualcuno che fosse in grado di fare un po' circense davanti ad un microfono in conferenza stampa, che fosse in grado di trasmettere qualcosa di diverso all'ambiente. Chiaro che Conte, abbiamo sentito ancora l'intervista di ieri, e dice quello che deve dire, e cioè no, la Juventus ce l'abbiamo la dichiarazione di Conte, e sentiamole. Personalmente non ho firmato assolutamente niente, quindi in questo momento Antonio Conte è un allenatore del Siena, è orgoglioso e felice di esserlo, e detto questo, a fine campionato vedremo, ecco, se succederà qualcosa di bello. Il fatto di essere accostato a una grande società come la Juventus, che per me sicuramente a livello affettivo ha qualcosa di importante, no? Ma non scopriamo certo l'acqua calda dicendo questo. Niente, sono molto lusingato e ringrazio chi è con me ha potuto far sì che si accendessero, tra virgolette, i riflettori anche sull'allenatore, non solo sulla squadra e sulla città. Insomma, dichiarazioni di circostanza corrette, ma non mi sembra esattamente il prototipo del grande comunicatore, insomma. Ma Antonio Conte è così, insomma, non tutti sono Mourinho, ma neanche Lippi, neanche Capello, neanche questi qui. Voglio buttarle un altro nome, secondo me l'allenatore è un allenatore perfetto per la Juventus, ma qui stiamo facendo forse della dietrologia, sarebbe stato un signore, un professore di cui si era fatto il nome ai tempi della sostituzione di Ranieri, cioè Gus Hiddink, altro profilo allenatore perfetto per la Juventus. Conte piace ai tifosi, ma gli facciamo tutti in bocca al lupo di questo mondo. Torniamo da Stagio al Giro d'Italia, 5 km e mezzo alla conclusione. Mi dai un quadro della situazione, Piero Augusto? Ma il quadro, intanto, Vincenzo Nibali è rientrato nel gruppo Maglia Rosa, quindi i migliori sono tornati lì, sono tutti presenti, e adesso però devono fare il gardeccio, quindi vediamo come saranno dopo 7 ore di gara, quali saranno le energie residue su quest'ultimo strappo che porta Gardeccia. Come sono le condizioni meteo adesso? Invece in testa è Mikel Nieve, basco dell'Euskaltel, ha raggiunto e superato di slancio Stefano Garzelli, che adesso è lì che sta cercando di rientrare sul corridore basco. Innegabilmente lo so che nel tuo cuore c'è molta delusione, ce n'è anche nella mia. Io onestamente tifavo molto per Stefano, ma anche perché sportivamente però, al di là del patriottismo, no? di quella bicicletta tricolore, al di là di tutto quanto, oggi sportivamente l'avrebbe meritato, dai, diciamoci la verità, ha fatto una grandissima tappa. La stai dicendo la verità, però dai, è a 25 secondi, speriamo che possa cedere un pochino, anche se lo vedo procedere bene Nieve, e quindi sta procedendo con buona lena lo spagnolo, anzi il basco dell'Euskaltel. Stefano Garzelli resiste, adesso si mette sui pedali e sta cercando in qualche maniera di rintuzzare gli attacchi degli spagnoli. Ecco, gli spagnoli stanno letteralmente dominando questo Giro d'Italia. Oggi addirittura è disarmante, è ancora più disarmante quello che fa Contador. Cioè è talmente forte, è talmente superiore agli altri che addirittura c'è stato un momento che Joaquín Rodriguez è passato e ha chiesto autorizzazione, nel vero senso della parola, a Contador di poter scattare. Questo gli ha fatto cenno con la testa e lui è partito. Cioè siamo, cioè non è il Giro d'Italia. Il pagino, eh? È pagino della corsa. È così. Grande Contador. Sceglie anche, addirittura certe volte ho l'impressione che scelga i tratti di asfalto che pedalando in salita oppure a 80 all'ora in discesa stia lì a misurare le pezze dell'asfalto. Qualche volta ho l'impressione che curi perfino questi dettagli. Stai collegato con me, Pier Augusto. Io intanto continuo a chiacchierare con gli ascoltatori, a partire da Umberto da Genova, che mi sa che vuole entrare in argomento e in discussione. Sì, buonasera dottor Genova. Volevo chiederle un parere e un'osservazione. Sicuramente il dominio di Contador per quanto riguarda il giro e i grandi giri in questo periodo è indiscutibile e la classe la sta dimostrando, e anche l'idea del triplete sicuramente molto suggestiva. Ma mi chiedevo, considerando i grandi giri degli anni 90, in cui c'erano grandi campioni come Indurain, Bugno, Chiappucci, lo stesso Pantani e più tardi Armstrong, ricordo che c'erano grandi duelli. Ho l'impressione che fosse fondamentalmente un campione nato anche in un periodo storico tutto per lui, cioè volevo sentire un suo parere. No, ma è così, ma in questo Contador non la c'entra, insomma, è stato probabilmente fortunato in questo senso. Adesso l'ultimo grande duello che possiamo auspicabilmente immaginare potrebbe essere quello con Basso al Tour de France. Io non so se in questo momento Basso possa essere a livello di Contador, probabilmente no, però se vogliamo immaginare un duello, se vogliamo immaginare un competitor più credibile di altri, in questo momento non può che essere Ivan Basso. Certamente Contador è un fenomeno assoluto, nato in un momento molto particolare del ciclismo in cui non c'è un rivale vero. Io ripeto, mi auguro che questa rivalità possa accendersi al Tour, processi permettendo, insomma. Giuseppe Dalodi, buonasera. Buonasera a lei, dottor. Senta, io le volevo fare solamente una domanda. Sì. Allora, Agnelli ha fatto, quando l'ha fatta oggi, questa dichiarazione? Sì, le ha scritte oggi su Twitter. Ok. Allora, io le chiedo, se torniamo indietro di 25-30 anni e c'era Gian Agnelli oggi, lei cosa pensa, che Gian Agnelli non avrebbe dato un colpo di spugna? Si sarebbe comportato in questo modo? Guardi, no, Giuseppe, io se c'è una cosa che trovo veramente poco attendibile, poco credibile, sono i paragoni epocali. No, prima ne abbiamo abbozzato uno col ciclismo, la storia di dire come si sarebbe comportato oggi, come sarebbe oggi un duello tra Contador e Indurain. Sui paragoni epocali io mi arrendo completamente, insomma. Non so come si sarebbe comportato l'avvocato Agnelli, che ha vissuto un altro calcio, un altro periodo storico, che aveva certamente un altro spessore rispetto a tutti quanti i dirigenti e i personaggi del mondo del calcio di oggi. Mi risulta difficile immaginare cosa avrebbe detto, come si sarebbe comportato. Giustamente non lo sapremo mai, giustamente. Perché la storia non si riscrive, questo, soltanto questo. Ci dobbiamo fermare anche per sentire che tempo fa. Sulla Gardeccia mi sembra che abbia smesso per fortuna di diluviare, però l'asfalto è ancora viscido, è ancora bagnato. Adesso ci fermiamo per sentire il meteo, poi torniamo e vi raccontiamo il finale di questa tappa bellissima, 3,6 km alla conclusione sul Gardeccia. Ci fermiamo. Baiocchi, fiorini, carlini, ducati, marenghi sono solo alcune delle monete usate in Italia prima dell'unità. La moneta dell'Italia unita, dalla lira all'euro. La grande mostra che la Banca d'Italia presenta per il 150° anniversario dell'unità, dal 5 aprile al 3 luglio al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ingresso gratuito. www.bancaditalia.it. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 533 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Credit Reform è la prima scelta di banche, compagnie d'assicurazione e grandi aziende. 800 425 325 o creditreform.it. Ti bruciano gli occhi, sono rossi e irritati. I colliri omeopatici possono darti un pronto sollievo. La loro formula li rende adatti a tutti, anche per un uso frequente. Sempre più medici e farmacisti scelgono i medicinali omeopatici. I leader mondiali dell'omeopatia sono i Laboratoire Boiron, azienda familiare da oltre 80 anni con più di 4.000 persone nel mondo. Ti bruciano gli occhi? Prova l'omeopatia. Scegli anche tu Boiron. Tutto iniziò con una pecora degli Appennini, da cui delle mani sapienti ricavarono un pregiato tessuto che si unì indissolubilmente con un bellissimo filo di cotone. E i bottoni? Ah, i più preziosi bottoni di madreperla! Si sa che dietro un capo d'abbigliamento italiano c'è sempre una grande storia. Raccontala a tutti con l'etichetta TF delle Camere di Commercio. Certifichiamo l'origine dei tuoi capi per garantire alla tua impresa una storia a lieto fine. www.itfashion.org. Oggi hai tutto lo spazio che vuoi, tutto il comfort che vuoi, tutta la sicurezza e tutta la libertà che vuoi. Domani ti ricorderai di tutte le persone che hanno voluto viaggiare con te. È nato Fiat Fremont, tutte le auto che vuoi. 32 configurazioni di sedili, 5 o 7 posti. Motori Fiat Multijet con tecnologia IRS e interni in pelle. Tuo a 24.900 euro con la trasparenza del prezzo vero Fiat. Offerta valida fino al 30 giugno 2011. Legal Mail, la posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Gli effetti di un vortice di bassa pressione insistono al sud e più marginalmente al centro, mentre altrove è ancora protagonista un caldo oltre la norma. Domani prevarrà ancora il sole soprattutto al nord e in Toscana, sulle Alpi nuvole soprattutto pomeridiane ma associate a scarsi fenomeni, nubi sparse altrove più compatte al sud e in Sicilia e associate ad alcune piogge o rovesci in Sicilia e in forma più isolata su Calabria, Appennino centro-meridionale e zone interne del Lazio e della Sardegna meridionale. Temperature in ulteriore aumento al nord con punte oltre i 30 gradi, quasi stazionarie altrove, ancora ventoso su Basso Ionio e Canale di Sicilia. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it. E con questo è tutto. Chiedilo a Merawit, che come tanti è fuggita dalla guerra e dalla fame. Chiedilo a Michele o a Suor Lia, che sfamano i poveri in una mensa di Padova. Chiedilo ai malati delle baraccopoli di Mumbai e a chi con coraggio si prende cura di loro. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica continui a fare molto per tanti. Se non ci credi, chiedilo a loro. www.chiediloalloro.it. CEI, Chiesa Cattolica. Campagna sociale. È la sua prima guida? Sì. Allora, regoli il sedile, metta la cintura, sistemi gli specchietti, controlli il freno a mano, imposti la temperatura, decida la destinazione, scelga la sua canzone con i comandi al volante. Finalmente un'auto super equipaggiata. È Citroen C3. Solo a maggio hai fino a 3.000 euro di vantaggi, il 10% in più sulla quotazione 4 ruote del tuo usato e paghi da novembre 2011. Info su citroen.it. Imposti i comandi vocali. Mamma, stasera che papà non c'è, chi mi racconta la favola? Io, tesoro. C'era una volta Cappuccetto Rosso che incontrò il lupo nel bosco. Il lupo voleva mangiare la nonna. Io ho paura del lupo. Non avere paura, la nonna di Cappuccetto è al sicuro con Combivox. Combivox? Sì, l'antifurto Combivox protegge la nonna. Lei e Cappuccetto sono al sicuro come noi. Combivox, l'ideatore del primo antifurto GSM, crea sistemi professionali di allarme e sicurezza per controllare casa e ufficio dal telefonino. Vai su combivox.it e vissero tutti sicuri e contenti con Combivox. Ciao, strega Pallanza, sei passato ad Eritline? Pallanza, ma se tua moglie è strega, tuo suocero è stregone? Sì, e mo vi giù e te fa sparire. Oh, parlo con la strega. Risparmia delle battute. E tu risparmia sulla polizza auto. Passa ad Eritline. Su Eritline.it puoi risparmiare oltre 200 euro e ti mandano tutto a casa gratis. Vai da Eritline, oh, ma sei un mago. Grazie, strega. Saluta Pallanza. Direct Line, l'assicurazione a portata di mouse. Fai il tuo preventivo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su directline.it. A tempo di sport. Nieve a 2 km e 200 metri dall'ultima vetta di giornata, quella conclusiva, quella del Gardeccia, mentre ci sono movimenti nel gruppo Maglia Rosa, ma tra poco torniamo al Giro d'Italia per vivere in diretta questo finale di tappa che, anche qui già ve lo dico, non cambierà nulla nella classifica generale, se non nelle posizioni di rincalzo, perché sappiamo come dietro Contador poi ci siano vari uomini divisi da distacchi minimi. Francesco da Perugia, Gianni da Torino sono altri ascoltatori con cui parlo con grande piacere. 800 24 00 24, numero verde. Francesco. Buonasera. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie, dica. No, la mia voleva essere solo una riflessione sulla querelle De Laurentiis-Mazzarri. Che, sì, insomma, molto divertente. Sono contento che lei ne voglia parlare. Da quello che si legge oggi, insomma, sembra che Mazzarri si sia ammorbidito. Quindi, ecco. Quello che il pensiero mio è che in realtà è stato un gesto diciamo correttissimo da parte dell'allenatore, perché qui deve essere chiara una cosa, che il Napoli ha fatto un miracolo, sì. Per cui se non è chiara questa cosa in società si rischiano figuracce l'anno prossimo. Quindi, cioè, quale cosa chiara? Che il Napoli ha fatto un miracolo? Che il Napoli ha fatto un miracolo. Lo sanno tutti, ma guardi che lo sanno tutti. Molto migliorato. Allora, secondo me, questo balletto molto divertente, ripeto, la mia sensazione, forse sarò malizioso, lo dicevo anche ieri, la mia sensazione è che Mazzarri è stato un po' circuito e poi mollato dalla signora, no? È stata una vicenda gestita in maniera anche un po' goffa da entrambe le parti. Una cosa è evidente, che Mazzarri ha fatto un ragionamento che ogni allenatore farebbe, e cioè: questa squadra ha fatto il massimo, cioè più di così da questa squadra, anche da questo assetto societario, da questi investimenti io non posso cavare, dunque mi cerca la Juventus, io vado. Poi tutto il resto, quello di dire ma ne parleremo a fine stagione, e ne parliamo a fine stagione perché io sono corretto, sarebbe bastato 2 mesi fa, come ha fatto l'Udinese con Guidolin, rinnovato contratto, arrivederci, grazie, tutti i concorrenti sono ritirati in buon ordine, no? Sarebbe stato 2 mesi fa dire rimango al Napoli al 100%. A Del Neri, che l'ha detto 2 settimane fa, ovviamente non ha creduto nessuno, a Mazzarri avrebbero creduto. Si sarebbero spente tutte queste voci e festa finita. È chiaro che Mazzarri adesso ha fatto 2 conti, e cioè cosa posso spremere ancora dal Napoli? Siamo a un bivio: o De Laurentiis impazzisce improvvisamente, si siede al tavolo delle trattative con i grandi club europei ed entra in una prospettiva molto diversa da quella attuale, oppure si tratta di mantenere nella migliore delle ipotesi questo piazzamento. A mio parere Mazzarri ha pensato: con questo assetto, con queste prospettive, con queste possibilità di investimenti, più di così non si può fare, e quindi si può solo fare peggio. E come tutti gli allenatori, ripeto, come tutti gli allenatori, ha fatto un ragionamento di questo tipo: se riesco ad andare via, magari a trovarmi una panchina bollente ma importante come quella della Juventus, io ci vado. Adesso quella panchina è occupata, la musica si è spenta, come nel gioco delle seggiole, Mazzarri è rimasto in piedi e ha innestato la retro, ma quasi quasi forse resto. Gianni da Torino, buonasera. Buonasera, triste juventino. Triste? Triste, ho imparato negli ultimi 3 anni della Juve che le squadre non si rifanno comprando dei giocatori, ma vendendone alcuni. E l'esperienza del Milan di questi giorni mi sembra veramente lungimirante. Sì. Ci siamo incagliati in una situazione con uno spogliatoio pesantissimo, sì, con persone inamovibili. Ci troveremo a breve con Conte che dà del tuo a Del Piero, e mi chiedo tutto questo che peso può trovare nella gestione dello spogliatoio. Ma anche Ferrara penso di essere del tuo a Del Piero, no? E difatti le cose che sono successe sono negli occhi di tutti. Però grande merito al Milan, che ha avuto la forza di rimuovere dei giocatori non più solidali al loro progetto di gioco. Sì, che non è esattamente, Gianni, che non è esattamente la specialità della casa, perché come sappiamo la politica del Milan negli ultimi anni è stata quella di portare i giocatori comunque alla pensione. Adesso è vero, ma rispetto per chi è capace di cambiare. Sì, sì. Ma guardi, io posso dirle una cosa che adesso sarà impopolare come al solito, però è il mio pensiero che ho sempre detto. Io ho pensato che il Milan potesse vincere lo scudetto il giorno in cui è stato ceduto Ronaldinho, perché quello era il grande equivoco. Perché Ronaldinho era, e si sta dimostrando ora in Brasile, grosso modo un ex giocatore di lusso, e quindi in quel momento ho detto potrebbe essere l'anno buono per il Milan, poi il resto è cronaca e storia. Poi quanto agli altri, insomma, mi sembra che Pirlo, che è un giocatore di livello, resta un giocatore di livello top, reduce da una stagione in cui non ha giocato praticamente mai, ha 32 anni, guadagna un sacco di soldi, non è funzionale, non so nemmeno se lo sia mai stato in realtà al calcio, al progetto di Allegri. Dunque trovo quasi logica la sua partenza, in controtendenza, ripeto, alla politica milanista, che era diversa, che era quella di portare i suoi senatori fino a accompagnarli alla pensione, insomma. Quanto all'acquisto di Pirlo da parte della Juventus, mi sembra, a guardarla così come ha detto ieri Allegri, insomma, una grande mossa. Si tratta di capire però che Juventus verrà, perché non ha senso prendere Pirlo quando c'è ancora tutto per aria. Di sicuro è meglio Pirlo di tutti quelli che ha la Juventus a centrocampo oggi, su questo dubbi non ce ne sono. Gianni, si tiri su, mi raccomando, si tiri su leggendo magari le dichiarazioni di Twitter, su Twitter del presidente Agnelli, che ha detto quelle cose, poi ha anche aggiunto, questa non ve l'ho ancora detta, quest'anno non meritiamo gli applausi, ha scritto Agnelli, e sul futuro prossimo, che è legato al nuovo stadio, scrive: sarà fantastico il momento di inaugurazione dello stadio, si tratta di un grande risultato per tutti noi, avrà un ruolo centrale per la Juventus e i suoi tifosi. Chiaramente, ha aggiunto Agnelli, l'obiettivo rimane vincere e solo allora ci potremo dire soddisfatti. Stiamo già lavorando ogni giorno per riportare la squadra a successo e affronteremo il prossimo anno con grande grinta e determinazione. Queste le frasi di circostanza, di queste ultime naturalmente, di Agnelli su Twitter. Voglio però tornare al Giro d'Italia, che sta vivendo gli ultimi battiti in questa tappa dolomitica. Pier Augusto, Staggi. Sì, siamo ormai alle battute conclusive, 7 ore e 22 minuti di corsa, al comando il basco Mikel Nieve, che ormai è lanciatissimo verso Gardeccia, quindi seconda vittoria probabile, seconda vittoria dell'Euskaltel dopo ieri sul Zoncolandi Igor Anton, il compagno di squadra Mikel Nieve. Alberto Contadoro invece ha scavato ulteriormente un solco tra lui e il resto del mondo, è scappato via, ha guadagnato già una cinquantina di secondi su Michele Scarponi e Gadré, e più indietro, intorno al minuto e dieci, c'è il gruppetto dei migliori guidati da Vincenzo Nibali, che devo dire ha tenuto duro, ha avuto un'ulteriore flessione, si era staccato, poi è rientrato e si è rimesso in testa a scandire l'andatura con Joaquin Rodriguez, con Roman Kreuziger, con Denis Menchov, cioè i superstiti del grosso del gruppo. Questa è proprio una gara di resistenza, oggi è il tappone dolomitico. Ricordiamo, stiamo ormai sul filo delle 7 ore e mezza di bicicletta. Senti, ma c'è anche, che tu sappia, c'è anche Anton con no, Nibali, no, sono no, divisi no. Da un secondo. Igor Anton è segnalato a circa 3 minuti dalla manovra, quindi sta perdendo posizione anche nella classifica generale, quindi al termine di questa tappa, ad esempio, secondo potrebbe salire Michele Scarponi. Se va come dovrebbe andare, Michele Scarponi potrebbe conquistare questa sera il secondo posto e quindi scavalcare Nibali, che dovrebbe scivolare al terzo posto. Ah, quindi la situazione è questa, con Nibali che sta facendo fatica anche su queste rampe. Adesso, ad esempio, rampe. Michele Scarponi ha staccato il francese Gadré. Michele Scarponi da solo all'inseguimento di Alberto Contador, che però, ribadisco, sta incrementando vantaggio ed è segnalato. Ma c'era bisogno, secondo te, nei panni di Contador? Ormai la tappa non la può più vincere, c'era bisogno di attaccare la concorrenza anche in questo finale? Non è la risposta è che non è Miguel Indurain. Non è Miguel Indurain. No, stava lì sulle ruote. Stava lì sulle ruote. Cioè, io capisco ci fosse stata la possibilità di vincere la tappa, però ci mancherebbe altro. È una tappa di enorme prestigio, anzi, dovrebbe provare a vincere una tappa. Avrebbe dovuto provare a vincere una tappa di questa e magari quella di ieri. Però adesso, per dargli un altro scappellotto a una concorrenza che tanto è inoffensiva per lui, mi domando che bisogno ci fosse di attaccare. Lui è da Etna, che dice che vive la giornata e deve, ogni giorno è utile per poter portare a casa secondi o minuti preziosi, perché una crisi può capitare a tutti. Con questa scusa, o comunque con questa motivazione che non è una scusa, Contador risponde sempre con grande flam e con grande disponibilità, e per spiegare questa sua tattica, che è quella di portare sempre ogni giorno, quando gli capita, fieno in cascina. E quindi anche oggi porta fieno in cascina, perché lui dice: non si sa mai, io nella terza settimana potrei essere muerto, come ha detto a letto, ma poi l'ha ripetuto e penso che lo ripeterà anche questa sera. Gli sparano. Esatto. Non mi sembra plausibile. Adesso il traffico, subito dopo Giro d'Italia per il Gran Finale. Continuo a parlare con gli ascoltatori. Vedo Sabino da Lecce già in rampa di lancio, insomma, già collegato. Traffico. Axerta Investigazioni indaga, documenta, accerta. Vi presenta Strade in diretta. Bentrovati, proseguono i rientri del fine settimana. Il traffico è intenso con code provenendo dalla riviera romagnola sulle autostrade della Liguria e in entrata a Milano e Roma. In entrata a Bologna sulla 14 Adriatica le code sono per un incidente tra Imola e Bologna San Lazzaro, così come sulla 8 Milano-Varese tra Legnano e Doriggio in direzione di Milano. Code di un chilometro sulla 15 della Cisa in direzione di Parma per un veicolo in fiamme tra Fornovo e Parva Ovest. È tutto, a più tardi. Promo 24. Il talento non ha età e le aziende crescono solo grazie alle capacità di chi ci lavora. Randstad, agenzia per il lavoro internazionale che si occupa di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane, ha i numeri giusti per diventare il partner nella ricerca del personale. Randstad, presente in 43 paesi, con oltre 4.000 filiali e 27.000 dipendenti, è la seconda agenzia di servizi Human Resource al mondo. Affidabile e professionale, attraverso l'applicazione di un modello operativo rigoroso, Randstad dà forma al mondo del lavoro, agevolando l'incontro tra domanda e offerta, per garantire l'eccellenza del servizio e la soddisfazione di chi offre e cerca lavoro. Maggiori informazioni su www.randstad.it. A tempo di sport. E la vittoria oggi è basca, Pier Augusto Stagi. Sì, dopo 7 ore, 27 minuti e 14 secondi, vittoria del basco Mikel Nieve, che devo dire ha fatto una grande gara. Per noi italiani, certo, è l'ennesima giornata dolorosa, però grande prova del corridore basco, quindi festa grande per l'Euskaltel, che vince due tapponi, ieri lo Zoncolan con Igor Anton, però oggi staccato, e oggi grande vittoria invece sul Gardeccia nel tappone dolomitico. Adesso stanno arrivando, si sta lottando per il secondo posto e dovrebbe farcela Stefano Garzelli a cogliere un secondo posto prestigioso, meritato, forse meritava qualcosa di più. È amaro, è un secondo amaro, sì, assolutamente, però dai, sul podio ci deve arrivare, sì. E spero fortemente che il varesino dell'Acque Sapone possa coronare questo suo risultato. Tanto vedo sempre Contador che danza in maniera elegantissima, magnifica sui... Sui pedali, stacca, e arriverà al traguardo da solo con la concorrenza diretta per la maglia rosa, staccatissima. Oggi altra botta, non credo sia definitiva, perché forse hai ragione tu, il giro lo ha chiuso nel barattolo sull'Etna. Senti Pier Augusto, lasciamoli arrivare tutti, il vincitore di tappa ce l'abbiamo, poi facciamo i conti con la classifica generale in mano, una classifica generale che, possiamo già dirlo a giochi da chiudere, darà ulteriore distacco di vantaggio a Contador, che con ogni probabilità proietterà Scarponi al secondo posto alle spalle di un Nibali che oggi ha pagato parecchio. Garzelli che arriva in questo momento con 1,42 dal vincitore, e mi pare stia arrivando Contador, giusto? Eh sì, ve lo dico io, sta arrivando Contador terzo dunque sul traguardo a 1,53 da Nieve, che non è un uomo di classifica e che ha vinto questa tappa. Poi rifacciamo i conti, torneremo dopo le 18 a parlare di Giro d'Italia, in particolare abbiamo un appuntamento fisso con Pier Augusto Stagi alle 18.45, quindi state con noi, continuiamo a parlare di questa tappa e di questa corsa rosa. Intanto torno su discorsi calcistici con Sabino da Lecce, buonasera. Salve, buonasera. Ascoltavo la vostra missione e ho sentito più di qualche intervento in merito all'acquisto. tra parentesi, di Conte come allenatore della Juventus. All'ingaggio. Non sono all'ingaggio, sì, non sono d'accordo con quanto espresso da voi, in quanto reputo Antonio Conte un allenatore valido, perché al contrario di altri lo dimostrava già in campo di esserlo, sì, in una maniera molto molto molto efficace, e quindi oltretutto penso che quando lungimirante i tanti soldoni avuti dal presidente del Barcellona ingaggiò il signor Guardiola, Guardiola è un signor nessuno, era un signor nessuno, ovviamente, ovviamente io penso il signor Agnelli dovrà comprare anche della merce buona per Antonio Conte, che metterà in campo in maniera egregia, suppongo. Sì. Mi riallaccio anche ad un altro ascoltatore che parlava di Gianni Agnelli. Gianni Agnelli, in tempi non sospetti quanto sicuramente il calcio era altro, ingaggiò un signor nessuno che si chiamava Giovanni Trapattoni, sì, che alleveniva dalle Sabino, però sono signori nessuno che però andavano in grandi società. La Juventus non è in questo momento una grande società, cioè, no, io, allora probabilmente, ma ognuno ha i suoi pensieri, se li tiene, poi io espongo i miei e ascolto i vostri con piacere anche. Però io non sto discutendo il valore assoluto di Antonio Conte, che pure non ha in questo momento, non ha una palmarès da grande allenatore, come sapete, Arezzo prima esperienza, poi esonerato, poi richiamato, alla fine retrocessione se non ricordo male, due stagioni al Bari, la seconda ottima con la promozione, poi arriva in Serie A, poi fa il contratto, poi il giorno dopo lo rompe per problemi, per insomma querel di mercato con il club. Poi va all'Atalanta, è una breve parentesi perché non va d'accordo con lo spogliatoio, sto facendo soltanto la cronaca. Quest'anno stagione straordinaria con il Lecce. Non sto discutendo Antonio Conte come allenatore. So benissimo che, abbiamo detto anche prima, quando Trapattoni andò alla Juventus, che era un signor nessuno, quando Guardiola andò al Barcellona, però erano la Juventus che era la Juventus, no? Il Barcellona che è il Barcellona. In questo contesto io ho l'impressione che Conte, che servisse un allenatore di maggiore esperienza calcistica, di maggior palmarès e di maggiore carisma. Tutto qui. Non sto dicendo che Conte è un cattivo allenatore, mi auguro che diventi il più bravo di tutti, sarebbe bello, però in questo particolare momento storico io personalmente, che nulla conto, avrei visto un'altra figura, ma si fa tanto per parlare. Michele Criscitiello da Sport Italia, da Speciale Calciomercato, ciao. Ciao, buon pomeriggio e buona domenica, ben ritrovati a tutti. Come ciao. La vedi tu? La vedo, e ti faccio proprio la sintesi del mio pensiero, che Antonio Conte ci può stare, ci potrebbe stare alla Juventus, come Allegri ci può stare al Milan, Guardiola alla Barcellona, Pioli alla Roma, ma a patto che la figura mi va benissimo di Conte alla Juventus, a patto che ci siano i calciatori. In questo momento i calciatori non ci sono, anche se il tassello di Andrea Pirlo è un tassello importante per la Juventus del futuro, un po' meno Reto Ziegler in attesa del futuro di Alberto Aquilani. Conte alla Juve sì, a patto che ci siano 4-5 campioni, altrimenti non si fa nulla. Questo è il problema principale, perché altrimenti un allenatore che va a Torino fallisce al 100% con una squadra che comunque non è da Juventus, sì, anche se bisogna considerare che la società in questo momento ha delle responsabilità piuttosto importanti. Sì, non c'è dubbio. Michele, io volevo farti una domanda che è questa. Leggo oggi dappertutto di questo interesse per la Juventus per Sanchez. Mi risulta però, come risulterà anche a te, che Sanchez è già in mano all'Inter. Mi domando se sia così una botta di fantasia o se veramente fossero così disinformati. Allora, io ti devo dire la verità, io sinceramente non mi fido il giorno prima di leggere Marek Hamsik con la cresta al Milan, non mi fido di Sanchez che all'improvviso viene accostato alla Juventus. Sinceramente la Juventus non penso possa avere 25 più eventuali calciatori, 25 milioni di euro ovviamente, da dare all'Udinese. C'è da dire che l'Udinese è una società che dice basta al supermercato, però vuole vendere eventualmente, ci sia la necessità per fare cassa e per fare una plusvalenza molto importante. Andare dall'Udinese a fine maggio diventa già complicato. Io penso che i giochi per Sanchez forse siano già stati fatti, ma il discorso è che bisogna andare dall'Udinese con tanto cash, perché è giusto che sia così, e la Juventus in questo momento lo escluderei. Tu dici l'Inter potrebbe essere una soluzione, a patto che aumenti il cash subito, e poi non può proporre all'Udinese, società modello come scouting, non può proporre Coutinho in prestito, perché l'Udinese non sa cosa farsene. Allora il Manchester City, se secondo me potrebbe essere una soluzione più valida, perché ti dà 25 milioni di euro, non mette contropartite e soprattutto non ti paga in 10 anni, ma ti paga al massimo in 2-3 anni le rate per il calciatore. Senti, un altro punto, in questo casino degli allenatori che è venuto fuori anche in settimana, io non ricordo, ripeto, ma ha ragione Fabio Monti, è un finale annacquato, oggi sono solo partite amichevoli, finale annacquato di un campionato troppo lungo, però non ricordo a memoria una settimana che precede l'ultima di campionato con così tante notizie, così tanta gente che dice addio, con così tante partenze, con così tante voci. In questo casino degli allenatori, oggi leggevo così di sfuggita su un'agenzia, c'è sempre la Roma in prima fila, no? Perché la Roma, io francamente non riesco a capire quale futuro possa avere. A cominciare dalla panchina, si dice un allenatore straniero, però forse è Pioli, però forse è Deschamps. Oggi leggo così di sfuggita, ti dicevo, Marcelo Bielsa, insomma, cosa c'è sotto tutto questo? La confusione, quella che regna in questo momento a Roma, cioè la confusione di un progetto che sinceramente potrebbe far fatica a decollare, la Roma che ci ha messo tanto per chiudere la cessione societaria, però si può parlare di Bielsa, si è parlato anche di Garcia, del Lille che ha vinto il campionato in Francia, la Ligue 1, però a mio modo di vedere se arriva un italiano arriva Stefano Pioli, perché due incontri Sabatini già li ha fatti e Walter Sabatini è uno che non incontra allenatori a caso, lo ha dimostrato in passato Lazio che ha alla Palermo. Se avesse la possibilità e se non avesse un trascorso alla Lazio con il bagno nella fontana dopo il derby vinto con la Roma, senza dubbio Sabatini porterebbe con sé immediatamente Delio Rossi, che probabilmente dirà addio alla Palermo. Così non può essere e quindi si prova la carta Stefano Pioli. Se è un italiano sarà Pioli, se sarà straniero sarà Deschamps, che darà una risposta entro 48-72, da quello che mi dicono entro martedì Deschamps sceglierà le riserve. Lui è il primo nome, Pioli a ruota. Senti, ancora 30 secondi, il tempo per fare un paio di nomi secchi su questa mezzala sinistra di cui ha parlato Galliani. Ma io penso che alla fine loro proveranno davvero una trattativa con Asamoah, altrimenti si troverà a chiudere con un calciatore che può arrivare dal Sud America. In questo momento loro stanno battendo molto il mercato del Vélez Sarsfield, questa potrebbe essere un'indicazione giusta. Grazie Michele, buon lavoro. A voi, e buona domenica. Ultima giornata di campionato, sperando di non annoiarci troppo. Tra 5 minuti cominciano queste 6 amichevoli e stasera qualcosa di un po' più piccante. Tanto noi continuiamo a parlare insieme, a divertirci un po'. Dopo il GR 800 24 00 24 Romano Verde vi aspetto. A tempo di sport. Dunque, abbiamo dato in cronaca prima l'arrivo della tappa del Gardel, cioè di questo tappone dolomitico, con la vittoria del Basco Nieve, con Garzelli che, ai noi, visto il tifo che abbiamo fatto, arriva secondo, Contador che dà un altro scappellotto a tutti quanti, Scarponi che arriva dietro a Contador e che scavalca Nibali in generale, sì, perché la generale dice che Scarponi è ora secondo con 4:20 di ritardo sull'imprendibilissimo spagnolo. Nibali è ora terzo a 5:11 da Contador. Quarto è Gadrea 6:08 e quinto scivola il vincitore della tappa di ieri, cioè Anton, oggi in difficoltà a 6:32. Volevo a questo punto, per chiudere il circolo, un commento del nostro commentatore speciale di questi giorni, cioè il presidente della Mapei, Giorgio Squinzi. Buonasera presidente. Buonasera a tutti. La pensavo fare mentre faceva il tifo per Garzelli, o sbaglio? Sì, sicuramente ci ha fatto emozionare anche lui, insomma. A un certo momento ci credevo, purtroppo l'età di Nieve ha prevalso. Sarebbe stato un bel traguardo per il vecchio Garzelli. Ma non datelo per morto, perché anche l'anno scorso vi ricordate che è riuscito a vincere anche la cronometro in salita. Sì, vero. È uno che non molla mai. Volevo chiederle una cosa, quell'attacco di Contador, allora prima ne parlavo con Pier Augusto Stagi, dico, ma che bisogno c'è? Non c'è una tappa da vincere perché i primi due sono imprendibili, che bisogno c'è di attaccare ancora e di togliere dell'altro tempo a chi insegue ma non ha la possibilità di arrivare davanti, perché questo tiene il giro in mano come un ammaestratore di serpenti, insomma, che bisogno c'è di attaccare ancora? Lei che idea si è fatto? Ma io sono convinto che potrebbe fare di più, è un campione, è nettamente superiore a tutti nelle corse a tappe in questo momento, però non riesce ad accendere gli entusiasmi come altri campioni del passato, perché questi scattini così nell'ultimo pezzetto così non lo vediamo mai fare l'impresa vera, ecco, questa è l'impressione che ho io, anche oggi è partito, ma probabilmente se partiva un attimino prima poteva anche riprendere i primi due e fare l'impresa vera, insomma. È un, così, uno che corre un po' alla Indurain, forse anche con destando meno entusiasmo. Sì, ma non è che non ne ha bisogno di fare l'impresa vera, Presidente, è talmente superiore che non, in fondo non ne ha bisogno? Ma sì, in questo momento con questi partecipanti al Giro è sicuramente molto molto superiore, però oggi era una tappa, per me è stata una delle tappe più belle che ho visto sì. nella mia vita, veramente straordinaria, questo assieme di salite, e ci sarebbe voluta l'impresa vera di un grande campione. Ha ragione. Ecco, questa ha ragione. Non si è vista. No, no, ma ha ragione, come dicevo prima, insomma, cioè, oggi chi ha ampiamente detto e scritto, insomma, Contador avrebbe avuto bisogno magari di vincere ieri in una tappa completa, sullo Zoncolan. Era anche più bella, O quella di oggi più bella, insomma, avrebbe bisogno di spedire questa cartolina, no? Io vinco il Giro, però sono capace di vincere anche queste tappe perché non ce n'è per nessuno. In effetti ha sempre quella forse non so se sia una remora, non so se voglia magari lasciare gloria agli altri per poi trovarseli amici e alleati in un discorso molto utilitaristico strada facendo, magari anche così. Ma non lo so. Non credo che sia questo che poi lasci vincere gli altri per questo motivo, insomma. Gli manca, diciamo che gli manca qualcosa, arriva a 30 ma non a 31, insomma, per il momento. Ciò non toglie che sia il campione nettamente superiore a tutti in questo momento, insomma. Senta, sarebbe stato forse bello vederlo fare un testa a testa con Ivan Basso in questo certo, è proprio l'ultima domanda che volevo fare. Lei è stato presidente di una squadra che ha fatto epoca, no? In cui di campioni ce n'erano tantissimi, tutti dentro la stessa squadra, ma era un momento storico in cui ce n'erano tantissimi sulle strade, no? C'erano tantissimi grandi corridori. La sensazione che ho io, ma che ha avuto anche qualche ascoltatore, è che Contador stia facendo un po' la corsa con se stesso, perché non ha un vero competitor, non ha un vero grande rivale. Purtroppo è così. D'altronde non credo che Scarponi a 31 anni possa rivelarsi un super campione, e Nibali è cresciuto rispetto al passato, anche oggi ci ha messo l'anima con quell'attacco in discesa, però non è ancora maturo e non so se mai maturerà, insomma, per diventare un vero campione. Ma in un duello con Ivan Basso lei ci crede? Cioè Ivan Basso può arrivare a questi livelli? Beh, Ivan Basso l'anno scorso, non dimentichiamo che una buona parte di quelli che sono qui al Giro, che si fanno strapazzare da Contador, li aveva battuti ampiamente, insomma, sì. Quindi aveva battuto anche un Cadel Evans che secondo me rimane un altro dei grandi attori di questi anni, insomma. Presidente, la ringrazio e torneremo a disturbarla presto. Grazie a voi. Grazie davvero, grazie a Giorgio Squinzi, presidente della MAPEI, e io a questo punto non vedo l'ora che sia già Tour de France. Lasciamo stare le varie storie che di processi e di possibili esclusioni, facciamo finta che ci possa essere legittimamente questo duello tra Basso e Contador al Tour de France. Beh, allora vivremo un luglio interessante, che dite, al di là del calciomercato. Ettore da Perugia, buonasera. Vorrei fare una considerazione un po' provocatoria, prendendo spunto da quello che avete detto prima sull'intervento di Agnelli, che periodicamente esce fuori con le solite rivendicazioni dello scudetto. Sì. Mi chiedevo, 5 anni fa, con Calciopoli ha spazzato via un po' tutti, ha spazzato via Moggi, ha spazzato via Giraudo, Bettega. La chiamavano triade, ma secondo me non era una triade, erano in quattro, perché se calcoliamo che Lippi è stato per 8 anni su 12 l'allenatore della Juventus, credo che forse erano i 4 invece che 3. In più avevamo un Lippi allora se è così anche in 5 c'era Capello, no? Non è così? Sì, però Capello è stato 2 anni, poi se n'è andato, e prima, diciamo che prima che cambiasse idea sulla Juve, se vi ricordate bene, era uno che sparava sempre a testa d'uomo contro la Juve, ma poi sappiamo che lui è uno che si adegua facilmente alle situazioni quando gli conviene. Ma tornando a Lippi, che è lui il personaggio che volevo mettere a fuoco, In croce, non a fuoco, dica la verità. Esatto. Aveva anche il figlio, che era un collaboratore stretto del figlio di Moggi. Allora la mia domanda è: ma quanto è credibile il fatto che Lippi sia uscito indenne perché fosse al di fuori di tutto quello che è successo? Mi mi pare che Lippi fosse l'allenatore di quella squadra, ne è uscito indenne come sono usciti indenni i giocatori, e poi si può fare sempre un processo alle intenzioni, no? Come siamo bravissimi a fare qui. Al di là di quello, mi pare che non si possa fare, se no possiamo, torno a ripetere, varrebbe anche lo stesso discorso su Fabio Capello. Lei dice Lippi, e allora dico, e Capello non sapeva, e i giocatori non sapevano, però siamo sempre nell'ottica del processo alle intenzioni, al di là delle antipatie personali, come non è difficile credere che Ettore da Perugia ne abbia nei confronti del CT campione del mondo. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Sergio da Ferrara e poi abbiamo già un paio di gol da raccontare con Dario Ricci, che sta seguendo questi primi tempi per noi. A dopo. Cerved Group, il punto di riferimento per un business sicuro e competitivo, vi presenta Strade in diretta. C'è un incidente sulla 8 Milano-Varese, si rimane in coda tra Legnano e Origio Ovest verso Milano. Sempre sulla 8 traffico bloccato alle porte di Varese per un altro incidente per chi proviene da Milano. Ora sulla 15 della Cisa, qui code di circa 4 km in direzione di Parma dopo l'incendio di un veicolo tra Fornovo e Parma Ovest. Trafficate le autostrade liguri verso Genova, sulla 10 code tra Finale e Savone, tra Varazze e la 26 dei Trafori, sulla 12 code a partire da Chiavari. Lungo la 14 Adriatica invece incolonnamenti tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, in direzione di Roma trafficate le due diramazioni dell'Autosole e la 12 tra Santa Severa e Torri in Pietra. È tutto per il momento, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. La pensione pubblica si va riducendo. Per questo oggi è importante poter contare su una pensione integrativa. I metalmeccanici hanno realizzato Cometa, il fondo pensione di categoria senza scopo di lucro, che in modo qualificato e conveniente assiste i lavoratori per costruire una pensione integrativa e vantaggiosa. Fino a oggi, oltre 460.000 metalmeccanici hanno pensato al futuro e protetto la propria pensione aderendo a Cometa. Per saperne di più, www.cometafondo.it. Messaggio promozionale sulle forme pensionistiche complementari. Per aderire, prendere visione della nota informativa e dello statuto. A tempo di sport. Nel frattempo i gol da 2 sono diventati 4, allora cominciamo a raccontarli in quest'ultima giornata di campionato, addirittura 5 in questo momento col vantaggio del Palermo sul Chievo. Giornata pomeriggio, tardo pomeriggio balneare per la Serie A, con queste 6 partite che sono amichevoli, ufficiali o poco più, e che manca solo che giochino in costume infradito. Però sono 5 gol fin qui segnati in 15 minuti e vorrei scommettere con voi che oggi sarà una giornata di gol ricchissima, perché vedrete che sarà così. Dario Ricci. E allora Carlo, partiamo proprio da quest'ultima rete che hai un po' anticipato, il vantaggio del Palermo sul Chievo al 15° di gioco. Intanto è arrivato anche il gol del Brescia, vediamo adesso, sì, ed era, però insomma andiamo con ordine, partiamo proprio dalla rete del Palermo, c'è stato un diagonale di Nocerino che è rimbalzato di fronte al portiere sorrentino, papera colossale, e 1-0 per il Palermo. Intanto il Brescia con Eder ha pareggiato il vantaggio iniziale della Fiorentina, quindi siamo al 19° di gioco, Brescia 1, Fiorentina 1. C'è stata una papera della difesa della Fiorentina, ed Erke è riuscito a catturare il pallone e affondarsi in avanti verso la porta di Boruzzi e a batterlo con un diagonale destro molto preciso. In precedenza, al secondo minuto, era stato invece Vargas a portare in vantaggio i Viola con uno splendido destro da fuori area, imparabile per Arcari. In vantaggio per 2-0 il Genoa sul Cesena, doppietta di Floro Flores al quarto minuto. Palacio serve Floro Flores, diagonale di destro, bravo Antognoli a respingere, il pallone sembra uscire sul fondo ma ritorna l'attaccante del Genoa e praticamente dalla linea di fondo lascia partire una saetta di destro che si insacca all'altezza del secondo palo. Raddoppio al 17°, ancora un cross a centro area dalla linea di fondo di Palacio, errore della difesa cesenate, e Floro Flores riesce a incunearsi fra due difensori e a insaccare il 2-0 da un metro. Poi Inter in vantaggio per 1-0 sul Catania, al 16°, Pazzini che sfrutta un rimpallo della difesa catanese su Cargià, palla che arriva praticamente all'altezza del dischetto del rigore, Pazzini in diagonale di destro riesce ad insaccare. In precedenza lo stesso Cargià al 9° minuto aveva colpito la traversa con un bel destro da fuori area a giro. Dovrebbero essere tutti, eh? Sì, sono 17 minuti e ovviamente facciamo già fatica a tenere i conti. Tra l'altro ci sono tabelline da sistemare, classifiche e marcatori da mettere a posto, insomma, soliti discorsi da ultima giornata. Grazie Dario, tienici aggiornati. Intanto c'è Sergio da Ferrara, buonasera. Buonasera. Dica. Io sono un Juventino Doc. Sì. Volevo chiedere il suo parere sul gioco che ha dato l'allenatore della Juventus, la Juventus quest'anno, secondo me... L'ex allenatore ormai. Ma anche Ferrara l'anno scorso. Cioè, si arrivava al limite del centrocampo e si faceva il tipico cross. Ah. Cioè, secondo me non si gioca così a calcio. No. A calcio ci deve essere l'ala che va giù, cross... Gli attaccanti. Ma ci vuole della qualità, no Sergio? Mi sembra che questa sia la parola chiave nella costruzione delle ultime edizioni della Juventus. Mi sembra che manchino giocatori di qualità e dunque lei dice si arriva al limite dell'area e poi non si sa cosa fare. Io torno a ripetere che secondo me qualche acquisto di questa disgraziatissima stagione juventina possa venire buono per il futuro. Krasic, non so Aquilani quali idee abbiano di riscatto o meno, Quagliarella e Matri possono essere funzionali alla costruzione di qualcosa di buono, insomma qualcosa da salvare in questa stagione sul fronte dei giocatori c'è. Non dimentichiamo che la Juventus fino a Natale, grosso modo, era tra le primissime della classifica e se i tifosi juventini si ricorderanno bene le feste di Capodanno in cui si diceva ma magari quest'anno ce la facciamo, invece c'è stato questo crollo verticale a gennaio, come spesso capita per le squadre di De Neri. Una Juventus che fin lì non aveva neanche giocato male, eh. Non dimentichiamo aveva vinto a San Siro con il Milan, aveva fermato l'Inter, con le grandi c'è sempre stata. Nella seconda parte di campionato in maniera un po' episodica e bizzarra, nella prima parte di campionato in maniera seria. La Juventus fin lì non aveva neanche giocato male, poi è crollata innanzitutto fisicamente, a mio parere, e non si è più ripresa. Quindi... parere che possiamo dare tutti, leggiamo la classifica, come si può valutare questa stagione, ha ragione Agnelli, certo non meritiamo gli applausi. Dunque, da un Giro d'Italia che vi abbiamo raccontato, che quello in bici, all'altro che stiamo seguendo con grande attenzione, che è in camper però stavolta, quello di Andrea Zorzi. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ben ritrovato. Sei a Matera, eh? Beh sì, sono in questa splendida Matera. Chi ha vinto la tappa? Hai vinto tu? No, per adesso qui si è vinto in tanti, per la verità. Vinto in tanti. Perché Matera, oltre ad essere una bellissima città, tu l'hai visitata? Sei mai stato? Sei col Giro d'Italia, ormai tanti anni fa. Una meraviglia unica, anche perché la cosa che più mi ha colpito è che qui c'è un palazzo dello sport, Palasassi, che è vicino a uno stadio, vicino a un campo di atletica, all'interno stesso c'è anche una piscina, in una zona... che si vive, in cui si vive normalmente, che non è questa cattedrale nel deserto che talvolta accade con gli impianti sportivi. Quindi i vecchietti vengono qua, si siedono, fanno due chiacchiere, i ragazzi entrano a giocare, un impianto dimensionato correttamente per il suo spazio, un impianto che è stato anche il teatro delle grandi vittorie della squadra di pallavolo negli anni 90, due coppe campioni e quattro scudetti, tanto per citarne. La cosa bella è questo, che è come se i materani si riconoscessero molto nel loro luogo dello sport, cosa che non accade così di sovente, e quindi Matera e la Lucania rappresentano ancora una realtà tutta particolare in un sud Italia che tra belle cose e brutte cose talvolta fa vedere più i conflitti. Certo, fu un lampo però quella squadra, no? Sì, sì, sai, succede spesso che alcuni sport minori, ma ti parlo anche di Priolo, del basket, della pallavolo femminile anche, talvolta sono gli sport utilizzati da chi ha un po' di soldi per poter fare un exploit sportivo, perché costruire una buona squadra è costoso ma non è impossibile, e lo puoi fare con i cosiddetti sport minori, sì. Al femminile ancora di più, e quindi talvolta c'è quasi un piano strategico di comunicazione o chissà cosa c'è dietro per fare un'operazione di grande risalto mediatico. Talvolta quando questo interesse diminuisce o viene meno, la cosa finisce e in alcuni casi lascia veramente un buco. A Reggio Calabria, forse ti ricordi, nel 2001 sì. La Medinex vinse lo scudetto che non gli venne assegnato per problemi di tesseramento irregolare. Giocavano al Pala Calafiore, che tu conosci perché la sede della Viola a Reggio Calabria. Sì. Ebbene, adesso è un impianto gigantesco che non usa nessuno. Certo. Ed è uno dei grandi peccati. Poi adesso io non sono qua a fare il giro dell'Italia dei luoghi dello sport che non vanno, non è mia intenzione. Però no, è vero. Però ogni tanto vale la pena dare una rinfrescata alla memoria, insomma. Però sì, però quando vedo degli spazi costruiti con un po' di senso, vissuti, che appartengono, anche per dove sono localizzati, alla vita della gente normale, ho un bel respiro di sollievo, perché mi viene in mente che allora lì stanno pensando che lo sport non è solo lo sport professionistico, signora, di alto livello, che ha diritto di esistere, ma non è lo sport più in generale. Ecco, questo è il respiro di sollievo che Matera oggi mi ha fatto, oltre naturalmente ai sassi, che sono uno spettacolo togli fiato. Andrea, grazie, ci sentiamo in settimana. Buon viaggio. Ciao, stai bene, buona giornata. Buon viaggio, Andrea. Non mi pare ci siano altri gol, Dario Ricci, no? No, no, direi di no. C'è da segnalare l'esordio di Perin in porta, il giovane Perin in porta nel Genoa, gli sfottò chiaramente del pubblico genuano per la Sampdoria che è in B, c'è una grande B che campeggia sulla curva di Marassi, qualche occasione interlocutoria, insomma sì, confermo, calcio d'agosto in piena regola. Calcio d'agosto in piena regola, fuori stagione. Gianmarco da Bergamo, buonasera. Buonasera, grazie per lo spazio concesso. A lei. Anche. Volevo portare la mia testimonianza rispetto al contatore, quanto è un fuori classe. Io ho la fortuna di poter aver seguito diverse tappe al Giro d'Italia come operatore video. Sì. E vederlo quando parte e come arriva al traguardo rispetto alla fatica degli altri è straordinario. Cioè, è un passo veramente sopra chiunque altro, sì, al, no, Giro d'Italia. È anche esteticamente molto bello da vedere. Cioè, nel senso, ha una pedalata di un'eleganza unica. È una, sembra una fluidità e una costanza nella pedalata che è una cosa incredibile. Un ballerino sui pedali. Però, Gianmarco, lei non pensa, anche quanto si diceva prima, tornando al ragionamento che si faceva prima, che sia un campione cui manca però il carattere o la voglia di fare grandi imprese, di inviare grandi cartoline oltre a maglie di tutti i colori? Scusi, guarda, posso spiegare due episodi? Sì. Al Roncolan era fischiato da tutta la montagna praticamente e non ha battuto ciglio, ha continuato la sua salita, quindi la statura si vede anche da quello. Sì. E seconda, parlando con qualunque ciclista all'interno del Giro d'Italia, è uno dei ciclisti più amati, lui ricambia molti favori, mi sa, per avere qualcosa in cambio. Quindi è un ragionamento strettamente utilitaristico? Sì, possibile, ovviamente deve fare le sue convenienze, ma poi perché non è una persona troppo arrogante quello che fa e mi sembra che abbia il benestare di tutti i ciclisti all'interno del Però, giro. Torno a ripetere, il grande campione è anche quello che in certi momenti non guarda in faccia a nessuno e va a vincere una tappa come poteva essere quella di oggi, no? Una tappa, infatti più bella di un giro. Come? Infatti il cambio Anibali sul finale di Roncolan non l'ha dato. Le chiedo ancora questo, visto che è un intenditore di ciclismo, siamo qui già tutti ad aspettare questo ipotetico, perché rimane ipotetico, duello con Ivan Basso al Tour. Ci può essere gara? Secondo me Ivan Basso deve dimostrare ancora tanto rispetto... Cioè, la caduta sul Vesuvio ha compromesso tanto, io ho preferito vederlo al Giro d'Italia che al Tour de France. Perché la difficoltà... Quando uno ha un'ossessione deve seguirla, Ivan Basso ha giustamente questa ossessione per il Tour, vuole quella maglia, la voleva quando sembrava pronto per prenderla, sappiamo quello che è successo. Io rispetto anche questo inseguimento di un'idea, di un'ossessione, come quello che sta facendo Ivan Basso. Spero davvero che, innanzitutto, che quel duello ci possa essere, al di là di... oltre e sopra quanto diranno i tribunali sportivi, però spero ardentemente che quel duello in questo Tour de France ci possa essere. E a quel punto sarà la grande domanda della stagione ciclistica, forse della stagione estiva dello sport tutta intera. Mario da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Senta, io ho visto che siamo in chiusura di stagione, volevo fare una considerazione di questo tipo. Io credo che noi italiani dobbiamo renderci conto che a livello europeo, insomma, abbiamo scalato qualche gradino in giù, ecco. Sì. Quindi io francamente non capisco questa lotta fra i club italiani per il quarto posto, quando poi facciamo delle figure, insomma, abbastanza brutte a livello europeo, di Champions appunto, rischiando tra l'altro, che arriva quarta, di mettere in serio pericolo la stagione del campionato. Ma innanzitutto quella quarta partecipante tra poco ce la levano, perché tra poco riscriveranno un ranking UEFA nel quale non siamo né terzi né quarti, ma siamo al momento sesti, perché scavalcati ovviamente anche dal Portogallo, più che quel quarto posto, insomma. Quella quarta partecipazione alla Champions League, io continuo a pensare che dovremmo affrontare, che le squadre italiane dovrebbero affrontare con molta maggiore serietà l'impegno di Europa League. Non mi pare che il Portogallo sia una grande potenza economica sulla cartina del calcio mondiale, Portogallo ha portato 3 delle ultime 4 in Europa League, ha avuto una finale, un derby di finale con lo Sporting Braga, che non è esattamente una superpotenza planetaria nemmeno dal punto di vista economico, e non ce la raccontino diversamente. Il Porto è una grandissima squadra con l'allenatore più interessante che c'è in giro adesso, gioca un calcio magnifico, è stato dominatore di questa stagione anche in Europa, ha alzato la Coppa. Io mi domando perché le nostre non possono arrivare dove arriva lo Sporting Braga, e questo è un cruccio che mi porto dietro tutte le volte, mi fa anche, vi dico la verità, un po' arrabbiare. Ci fermiamo un attimo, 800 24 00 24, numero verde, a dopo. Oggi nella mia azienda si parlano tutte le lingue del mondo, con i fornitori in cinese. Con i distributori in rumeno. Prescump. Con i clienti in inglese. The right pressure is 10 bar. Ma chi è che parla la mia lingua? Pantera, lo straordinario strumento di gestione che accompagna l'impresa italiana a competere nel mercato globale. Pantera parla la tua lingua. Visita il sito www.pantera.it. Pantela? No, Pantera, col TH. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony, perfect harmony. 125 anni di Coca-Cola. 125 anni di felicità insieme. Sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica torna il Festival dell'Economia con una doppia anteprima a Trento il 26 maggio, a Napoli il 28. I confini della libertà economica è il tema della 6ª edizione, dal 2 al 5 giugno a Trento e a Rovereto. Vai sul sito, programma il tuo festival. www.festivaleconomia.it. Eccolo, dottore, una domanda sul Sistri. Ora in azienda non siete un po' stressati? Stressati noi, anzi, total relax. Anche il Sistri, zero problemi. Ah però! Logico, ci siamo affidati a Omnisist, i professionisti, e al servizio Total Relax, la gestione full service dei rifiuti industriali. Ah però! Un consiglio, infosistri.it, il loro sito. Infosistri.it, risolutivo. Ah però! Omnisist, il valore della responsabilità. Papà, la casa di Giulia è una crepa nel muro. Il terreno potrebbe aver ceduto. Devono chiamare subito un tecnico. Già fatto, e il tecnico consiglia Uretek. Il leader mondiale nel consolidamento dei terreni con resine espandenti. Uretek, iniettando un'esclusiva resina nel terreno con una tecnologia brevettata, risolve definitivamente il problema di crepe e cedimenti. Sopralluogo e preventivi sono gratuiti. Basta chiamare l'800 32 39 99. Com'era lo spot? Con Uretek la casa campa? Senza Uretek la casa crepa. Sì, ok, in piscina puoi andare anche domani o la prossima settimana. E la tua fidanzata? Che fretta! C'è sempre tempo per il matrimonio. Anche il corso di tennis può aspettare. Non importa se il tuo migliore amico avrà più tecnica di te. Se anche il porte aperte usato Audi prima scelta Plus può attendere, beh, che problema c'è? Sarà qualcun altro a portarsi via l'auto che hai sempre desiderato, giusto? Certe cose non si possono rimandare. Solo dal 27 al 29 maggio potete approfittare del porte aperte usato Audi prima scelta Plus. Ciao Claudio, vieni a giocare a tennis questa sera? Grazie, ma in questo periodo non ho un attimo di tempo. Anche tu sei un commercialista, come fai? Hai rinunciato a qualche cliente? Al contrario, li ho aumentati e offro anche nuovi servizi. Oggi uso Business Pass, lo studio professionale esteso. Più clienti, meno costi, zero problemi. Prima di rinnovare il canone del tuo vecchio software, prenota la visita di un informatore Business Pass e incontra la vera innovazione. 800 41 42 43 o passepartout.net. C'è chi twitta e chi blogga, chi fa il download, chi preferisce lo stream, chi rippa e chi masterizza, chi scarica l'app, chi gioca col joypad. La tecnologia ci cambia la vita. 2024 vi spiega come. Prodotti, novità, approfondimenti, curiosità, videogiochi e giochi. Sono Enrico Pagliarini e vi aspetto sabato dalle 15.30 alle 17. Tra gli argomenti della prossima puntata, le app, le nostre e le vostre applicazioni preferite e le più utili. Sabato 28 maggio, collegamenti in diretta con il punto vendita Saturn di Verano Brianza, Monza. A tempo di sport. Dario Vinci, hai visto qualche gol? Sì, Carlo, ben due. Partiamo dal gol del Bari a Bologna, Pugliese in vantaggio di Poero 1-0, al 27esimo la rete di Grandolfo, c'è stata una bella discesa sulla sinistra di Bentivoglio, il cross raso terra a rientrare su all'altezza del dischetto di sinistro e sempre di sinistro Grandolfo ha battuto Viviano, primo gol in Serie A, la terza presenza in campionato per questo giovane. E poi Parma in vantaggio per 1-0 a Cagliari al 34esimo, assist di Giovinco scattato sul filo del fuorigioco, forse anche qualche centimetro oltre, per Bojinov che di piatto destro ha insaccato l'1-0 per gli emiliani. Perfetto, e intanto da registrare la replica di Massimo Moratti alle twitterate di Agnelli. Moratti ha detto, la Juventus dice che qualcuno in FGC non ha la coscienza pulita in merito al loro esposto per lo scudetto del 2006. Non sono problemi, sono problemi di Agnelli con la federazione. Non vedo perché debba entrare in questa polemica, c'è una tale aggressività in giro che non mi piace fomentarla. Questa la risposta di Moratti, che aggiunge sul fronte mercato, Pastore sarà il caso di tenerlo d'occhio, questo ha detto il presidente dell'Inter, e chi vuol farsi illusioni se le faccia. Intanto finale di stagione per il calcio, ma finale di stagione anche per il rugby, allora vale la pena salutare Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Cosa succede in questo finale di stagione? Ma cosa è successo in questo fine settimana, che è stato il fine settimana dedicato alle finali delle coppe europee, quindi l'Heineken Cup, che per chi non lo sapesse, insomma, è l'equivalente della Champions League nel calcio, ha preso la via dell'Irlanda, si è giocato ieri a Cardiff e il Leinster, la squadra dei vari O'Driscoll, O'Brien, Darcy, Eslip, ha vinto per 33-22 contro gli inglesi del Northampton, una partita sicuramente difficile da dimenticare, perché il Northampton vinceva 22-6 alla fine del primo tempo e stava dominando in maniera assoluta. All'inizio della ripresa sembrava in un certo senso che le squadre si fossero cambiate le maglie, il dominio assoluto è passato dalla parte del Leinster, che ha dominato con la mischia così come aveva subito nel corso del primo tempo Leinster, che ha fatto un parziale di 27-0, quindi una vittoria meritata, ma una partita anche un po' difficile da decifrare, se non con un calo psicologico forse del Northampton, che quest'anno segnerà con una croce nera questa stagione, avendo già perso anche la semifinale di campionato di campionato inglese con il Leicester. Nell'altra coppa, la seconda per importanza, la Challenge Cup, ha vinto invece una inglese, gli Harlequins, 19-18, con una meta nel finale, hanno superato lo Stade Français di Sergio Parisse, che sta vivendo una stagione sicuramente deficitaria, e oltretutto si parla anche di voci di abbandono, di parziale disimpegno da parte del presidente Guazzini. Quindi due finali che sono andate in archivio, una terza che in un certo senso ci interessa, si giocherà sabato prossimo, ed è la finale di Celtic League, sì. In finale Munster e Leinster, quindi ancora due irlandesi, quindi l'Irlanda del rugby che si fa bella, e questo un po' ci preoccupa, visto che proprio con l'Irlanda presumibilmente ci giocheremo la partita decisiva per l'accesso ai quarti di finale di Coppa del Mondo in ottobre in Nuova Zelanda. Nel frattempo, Carlo, possiamo anche dire che il campionato italiano è arrivato alla seconda partita di semifinali playoff, il Rovigo è già in finale, ha battuto anche ieri in gara 2 i Crociati Parma, mentre in questo momento a Prato stanno giocando i Cavalieri di Prato contro il Petrarca Padova, il punteggio è ancora in equilibrio, visto che il Petrarca all'andata ha vinto nettamente. Questa è una buona notizia, sì, almeno per ora, per la squadra veneta. Grazie Giacomo, grazie a Giacomo Bagnasco. Dunque, tempo di coppe assegnate nel rugby. Invece, per quanto riguarda le nostre amichevoli agostane fuori stagione, siamo al 35esimo grosso modo sui campi, parziali. Il Bari sta vincendo 1-0 a Bologna, Brescia-Fiorentina 1-1, il Parma vince 1-0 a Cagliari, 2-0 del Genoa sul Cesena, 1-0 dell'Inter sul Catania con gol di Pazzini, 1-0 anche del Palermo sul Chievo, risultati parziali. La gente Santander che confia in me de pequeño. a Barcelona por darme la oportunidad de venir a jugar a un gran club y disfrutar unos años maravillosos que pasé en esa institución, a la Lazio, Marsella. Le doy las gracias de corazón al Español por haberme dado la posibilidad de pasar 9 años maravillosos en el que, la verdad que nunca pensé que me iban a querer tanto como me han querido. Quasi quasi mi commuovo anch'io. Filippo Maria Ricci, piangiamo tutti. Piangiamo tutti insieme con Ivan della Peña. O piangerà di più chi l'ha pagato un sacco di soldi ai tempi della Lazio. Ma non lo so. Il piccolo Buddha. Sì. No, però devo dire. Ha fatto sognare. Sì, era anche un giocatore molto simpatico. Sembrava un crack assoluto ai tempi del Barcellona. Poi è stato un po' ridimensionato dalle nostre parti. Però è stato bravo con quelle sue forme rotondette a giocarsi un'altra fila di stagioni fino a smettere tra le lacrime dopo vari anni di Espanyol, come abbiamo sentito. Sì, poi bravo a passare dal Barcellona all'Espagnol senza lasciare strascichi, amato da entrambe le tifoserie, un bel carattere comunque, una bella persona, forse meno forte di quello che sembrava, fisicamente insomma non sempre all'altezza, però una classe immensa e comunque, come detto, una bravissima persona, insomma, rimpianto. E per certi versi un giocatore unico, insomma, poi non gli mancava la continuità, però insomma sì. Un grandissimo giocatore. Sì. Certamente più simpatico di CR9, però sul piano del valore calcistico non, insomma, mi sembra non si può neanche abbozzare un paragone. Ronaldo è meno antipatico di quello che sembra. A me sta molto antipatico, non lo so, così da lontano, così, No? No, io a parte che ci ho parlato varie volte, ho intervistato varie volte ed è sempre interessante. E non è come, non so, per esempio Messi è uno che insomma un po' non ha granché da dire. Ronaldo, per esempio, anche ieri sera a me è piaciuto, quando è venuto fuori in zona mista non ha avuto problemi a dire che era contento fino a un certo punto, non era contento al 100% perché non aveva vinto la Liga e la Champions, insomma non è da tutti, poteva mettersi lì a gloriarsi del suo record, no? E dire sì, sono il più forte, far vedere i suoi addominali e via dicendo. È stato secondo me molto, molto onesto in queste sue dichiarazioni, qui dice sì, va bene, il record, vediamo chi lo batte, magari non lo batterà nessuno, però intanto lui voleva vincere la Liga o la Champions. Per me non è da tutti, in queste cose... Sicuro. A me ha un suo perché, e poi dopo ti piace fare l'antipatico. Ha personalità, questo è indubbio. Sì, ma anche nelle cose che dice, ti dico, insomma, si veste soprattutto in campo, proprio sul prato, dei panni che non, secondo me non sono i suoi. In realtà io le volte che nelle quali ho parlato con lui sono sempre rimasto soddisfatto. Non ho dubbi su questo, credo sia un personaggio interessante da intervistare. Poi, come con tutti gli antipatici, si dice ma no, è tutta timidezza. Beh, insomma, lui comunque ha sofferto parecchio, cioè, viene dall'isola, gliel'hanno fatta pagare, parla un portoghese molto di provincia, insomma non è stato tutto così semplice. È andato giovane a Manchester con Sir Alex, tanto so se uno ha 200, mi sembra di aver letto 230 milioni di euro, può venire a portarselo via. Ma quelle sono stupidate, mi sembra di carattere colossali, esattamente come la cifra, insomma. Vuol dire, Ronaldo comunque, parlando di Manchester, è stato allo United per tanto tempo, ha ancora un grande rapporto con Sir Alex, non lo vedo proprio andare lì, e poi comunque resta qui a fare la sua, sa bene che questo, vuol dire, non hanno vinto quest'anno, ci riproveranno l'anno prossimo, hanno delle grandi chance, questa è una grandissima società, c'è Mourinho, insomma, far andare al City è un salto nel buio, non lo so, insomma, io proprio non l'ho mai vista questa storia, poi dopo ad alcuni piace così tirar fuori queste cifre roboanti e riempirci un po' di inchiostro, ma insomma a me sembra molto complicato, figura di Serie A Madrid può permettersi anche di fare una cosa del genere, insomma a me non mi sembra, poi dopo. E mentre Freddy, mentre Freddy mi scrive, non so se ci rimise di più con De La Peña o con Mendieta al fantacalcio, ti chiedo invece un coccodrillo per il Deportivo, che dopo 20 anni di massima divisione e a 11 anni dalla vittoria della Liga vai in Serie B. Guarda, mi rimangono negli occhi ieri sera, io sono andato qua al Bernabeu, poi sono tornato a casa, mi sono visto un po' il finale del Deportivo e finisce questa partita, no? E rimangono tutti lì, giocatori in campo, tifosi sugli spalti, tutti ad applaudire, i giocatori che piangevano, il pubblico, qualcuno piangeva, qualcuno applaudiva, qualche coro, ma saranno andati avanti 20 minuti. Allora io pensavo, dico, penso alla rabbia che c'era con la Sampdoria, sì, no? A Marassi, sempre le solite scene, aggressioni all'allenamento sospeso, no? E allora dicevo, ma invece qua, voglio dire, questa è una società ancora più gloriosa. In fondo la Sampdoria era in Serie B 8 anni fa, uh-huh, e quando invece il Deportivo solo 7 anni fa ha perso una semifinale di Champions contro l'Oporto di Mourinho e ha perso una Liga all'ultimo secondo sbagliando un rigore, sempre col Valencia, che io gli farei qualcosa a questi qua del Valencia se fossi del Deport. Però dico, cioè, era una società grossissima, veramente il Super Deport. Voglio dire, la Sampdoria in finale di Champions era il 92, è passato qualche annetto. E allora mi è venuto in mente, e ti dico, è stato, le scene viste a Riazor veramente mi hanno riconciliato ancora una volta col calcio e anche con quello che poi sono i valori della Liga qua in Spagna. Una grandissima sportività, insomma, è andata male. Valerone è andato a parlare subito con la televisione, ha parlato a lungo, quasi 10 minuti, guarda, un'intervista a Fiume in cui chiedeva scusa, dice, però non vi preoccupate, il prossimo anno torniamo su. Cioè, è bello, insomma, sì, un bel modo di salutare senza rabbia dalle nostre parti abituali. Filippo, ti ringrazio e ti mando un abbraccio laggiù in Spagna. Intanto io, prima del GR del traffico, rapidamente andrei per un ultimo collegamento da Dario Ricci per farci raccontare qualcosa. Sì, Carlo, direi che le novità arrivano da Palermo, perché prima c'è stata una bella prodezza di Sirigu su Moscardelli, proprio una ribattuta a colpo sicuro da un paio di metri, il portiere del Palermo si è superato. Non ha potuto far nulla invece Sirigu sulla conclusione di Sergio Pellissier al 40esimo, bell'assist di Fernandez. Pellissier si è trovato come al solito pronto sull'inserimento e di destro ha incrociato e ha battuto Sirigu, quindi Palermo-Chievo 1-1. Al 36esimo invece a Cagliari, bella punizione per il Parma di Giovinco, Parma in vantaggio, lo ricordiamo, per 1-0, un bel destro da posizione angolata e Agazzi bravissimo a deviare in angolo. E adesso arriva il 3-0 del Genoa sul Cesena dopo due assist a Floro Flores. Palacio si mette in proprio sempre su assistenza del centravanti genuano, lanciato a tu per tu con Antognoli, lo smarca, lo dribbla e insacca a porta vuota. Genoa 3, Cesena 0. Quindi questi quasi finali dei primi tempi. Adesso ci fermiamo ringraziando Dario Ricci per il traffico e poi torniamo. I tuoi denti si muovono, sono sensibili al caldo e al freddo. Le tue gengive sono infiammate, si sono abbassate. Soffri di alitosi, potresti avere la parodontite e perdere i tuoi denti. Previenila e curala con una tecnica non invasiva, biologicamente guidata, grazie ad Excellence Dental Network. Prenota una visita a Milano, Torino, Bologna, Firenze o Roma all'800 090 106 o su excellencedentalnetwork.com. Non perdere tempo, salva i tuoi denti. 800 090 106. Axerta Investigazioni. Indaga, documenta, accerta. Vi presenta Strade in diretta. Sull'autosole si formano code per un tamponamento tra Firenze Sud e Firenze Certosa in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 8, Milano-Varese, anche qui code per un incidente alle porte di Varese per chi proviene da Milano. Rallentamenti per un tamponamento poi tra Busto Arsizio e Rigio Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Ora c'è un incidente anche sulla 7 Milano-Genova, si rimane in fila poco prima della barriera di Genova Ovest in direzione della città. Sempre in Liguria, trafficata la 10 verso Genova, con code tra Finale Savone e tra Varazze la 26 dei Trafori. Sulla 12 invece le code sono a partire da Chiavari. Trafficata anche la 15 della Cisa per immettersi sulla 1. Lungo la 14 Adriatica invece incolonnamenti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Infine in direzione di Roma trafficate le due diramazioni dell'Autosole e la 12 tra Civitavecchia e Torre in Pietra. È tutto, a più tardi. Promo 24. In un mercato fortemente competitivo sono le persone a fare la differenza. Randstad, agenzia per il lavoro internazionale che si occupa di ricerca, selezione, formazione e somministrazione di risorse umane, ha i numeri giusti per diventare il partner nella ricerca del personale. Randstad, presente in 43 paesi con oltre 4.000 filiali e 27.000 dipendenti, è la seconda agenzia di servizi Human Resource al mondo. Affidabile e professionale, attraverso l'applicazione di un modello operativo rigoroso, Randstad dà forma al mondo del lavoro agevolando l'incontro fra domanda e offerta. offerta per garantire l'eccellenza del servizio e la soddisfazione di chi offre e cerca lavoro. Maggiori informazioni su www.randstad.it. Voci dal giro. Eccoci, per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Tempo di Sport, all'ultimo appuntamento, all'ultimo flash dal Giro d'Italia. E per questa tappa bellissima, vinta purtroppo, mi viene voglia di dirlo, lo dico, contavo un italiano, invece l'ennesimo spagnolaccio, anche se in questo caso è un basco, si chiama Nieve, con Contador che schiaffeggia ancora tutti quanti. Generale, Scarponi ora è secondo a 4.20, Nibali terzo a 5.11, Gadré che rimonta un'altra posizione a 6.08, Anton che invece ne perde un paio e a 6.32. Io vorrei sapere che cosa si sono detti e che cosa si è detto dopo la tappa da Pier Augusto Stagi. Ma si sono dette le stesse cose che si sono dette nei giorni scorsi, come da pronostico Alberto Contadora ha manifestato la sua soddisfazione, ha detto che è stata una giornata più che positiva, è una giornata molto molto dura, ha detto che ha fatto molta fatica, non credo che ne abbiano fatto di meno gli altri che hanno dovuto inseguirlo, e il fatto di aver attaccato nuovamente, perché dice che questo è un giro estremamente selettivo, estremamente duro, che tutto può ancora accadere e quindi bisogna portare legna in cascina. Quindi un Contador sereno, determinato, che non ha rosicchiato molto a Michele Scarponi, solo 6 secondi, ha portato via molto di più a Vincenzo Nibali, che oggi ha vissuto una giornata difficile, settimo, ricordiamo al traguardo, a 3 minuti e 34, quindi ha perso quasi 2 minuti da Contador e Scarponi, però lo stesso Nibali alla fine... lui è abituato a non demordere, a non cedere, dopo essersi così ripulito e sciacquato, ha ritrovato pensieri positivi nella sua mente ed è pronto a un finale di giro per cercare perlomeno, perché poi alla fine il risultato è questo, è quello di cercare di acciuffare il secondo posto, quindi sì. Sarà un duello italiano. E speriamo che i dispetti, perlomeno ci siano due italiani sul podio e non tre spagnoli a Milano, certo, perché certo. Per come sta andando, gli spagnoli stanno andando molto molto forte, anche se c'è questo John Gadré che è una grandissima sorpresa, questo francese che ha fatto veramente molto molto bene, si è piazzato, ha vinto una tappa al Giro e poi ha fatto tre grandi piazzamenti in tutte e tre le grandi tappe, e quindi adesso... Si sta godendo un quarto posto nella classifica generale, come già ricordato tu, a 6 minuti della maglia rosa. Sicuro. Sta veramente sorprendendo tutti. Sì, sì, il nome nuovo di questo giro. Volendo essere un po' malizioso, non si potrebbe pensare che Contador stia facendo questo giro di senza ammettere discussioni, perché ha dei dubbi seri anche lui sulla possibilità che gli lasciano correre il tour. Assolutamente. Io credo e penso che anche in cuor suo lo sappia, che la Vada e l'UCI non scherzano affatto, in modo particolare la Vada. Il ricorso al TAS è un ricorso, d'altra parte ci sono dei precedenti, se questi precedenti fanno giurisprudenza, almeno un anno lo prende, perché anche noi l'abbiamo avuto, si chiama Alessandro Colon, un corridore di terza fascia poco conosciuto, ha fatto una gara in Messico, anche lui è stato trovato positivo in maniera proprio infinitesimale per lo stesso problema, la stessa sostanza di Contador, anche lui ha cercato una difesa portando a sua difesa degli studi scientifici per l'uso di clenbuterolo nella carne messicana, ma questo non gli ha purtroppo permesso di evitare un anno di squalifica, e quindi credo che un anno di squalifica lo prenda anche Contador, credo, come ho già detto ieri, che non gli toccheranno il Giro d'Italia perché non sarebbe giusto, però gli toglieranno il Tour de France del 2010 e la possibilità di correre questo. Tour di quest'anno. E lasciami dire che sportivamente parlando, al di là di tutto quanto, della necessaria pulizia che va fatta, a me dispiacerebbe moltissimo non vedere questa sfida con Basso alla Gran Boucle di quest'anno, perché questo era l'anno in cui ci poteva essere davvero questa questa sfida ai massimi livelli. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo, più tardi dopo il GR delle 19 per riepilogare l'intera situazione. Noi ci fermiamo per sentire lo stacco e poi vi do i risultati finali dei primi tempi e un appuntamento per le 20:30. Voci dal giro. Dunque, appena il tempo di ricordare i parziali di queste amichevoli che chiudono il campionato di Serie A, fronte pomeridiano, quindi programma pomeridiano. Il Bari sta vincendo 1-0 a Bologna, gol di Grandolfo. Brescia Fiorentina 1-1, Vargas e Deder gli autori dei gol. Il Parma in vantaggio a Cagliari con gol di Božinov. 3-0 del Genoa su un Cesena quanto mai in versione estiva, doppietta di Floro Flores e Palacio. Pazzini dà il vantaggio all'Inter sul Catania, quindi Palermo e Chievo sono sull'1-1 i gol di Nocerino e di Pellissier. Questi i parziali. L'appuntamento invece che voglio dare è quello per le 20:30, quando anche oggi naturalmente parleremo di basket, cosa che faremo ogni domenica dalle 20:30 alle 21 fino all'assegnazione del triangolino tricolore. Come sapete, Siena è sul 2-0 con Bologna, Avellino e Treviso sono serie sull'1-1 e questa sera si gioca la gara 3 tra Varese e Cantù e tra Sassari e Milano, con Cantù in vantaggio 2-0 e Sassari-Milano sorprendentemente sull'1-1. Questo il piano partita per le 20:30, vi aspetto dopo.